Cruciani, professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ti piace la zanzara? Non c'ho voglia di tutte le volte che sto con te di ascoltare la zanzara. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia. Cioè, nel senso, non potrò anche decidere un attimino. Non ho voglia. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, caro Davide, a Palermo. Eccoci Grillo, qua. A Palermo Grillo, no, che buonasera, che buonasera. Buonasera a tutti. Ma voi. Che fai? Utilizzi queste cazzo di cose, falla alla buonasera sette queste voi, cose qua. Ascoltatori e ascoltatrici, come si diceva del partito, compagni e compagni. Ma dai, buonasera. Su, ma che è sta roba? Il politicamente corretto vero dice buonasera, ascoltatrici e ascoltatori. Cioè, prima le donne. Tu lo sai e poi che hai uomini. Iniziato da qualche tempo. A parte che tiri su col naso, sembra che ti fai di cocaina ogni giorno. Ma no, cioè, dall'inizio, realtà, da quando sei tornato? 5 settembre, da quando siamo tornati, che tiri su col naso ogni giorno, ma che cazzo succede? No, ti spiego. Cioè, sembra che ti sei fatto di cocaina continuamente. No, ma che cocaina? Non ho mai provato in vita mia, ti giuro. Guarda, no, mai, ma lo so, ho capito, ma se fai, ti tiri continuamente sul naso, è imbarazzante. Ho una specie di... Ma ho capito, ma amico mio, ma non è che uno può stare in trasmissione, no, e fai... No, scusami. Ogni tanto, scusami, uno sente... Che tu mi parli che, a me. Ma che pazzesco. Di imbarazzo, tu. Ma certo. Che insegni in diretta alla radio. Come alle 18:30 non farmi parlare. Come si defeca. Come si fa la pipì, come ci si masturba. Vabbè, ho capito. Tu che a me dici che ho un po' di laringofageo, sono un po' laringofageo, no, eccetera. Vabbè, ho capito, sì. Com'è? Perché ogni tanto deglutisco e tu fai, no, la deglutisci. Lezione di educazione a me. Tu che incidi a fare la pipì nel lavandino dove la gente, no, normale, no. No. Nel ricco occidente, no, usa il lavandino, no, per quello. Lavarsi la faccia e non il culo. Bene. Tu a me non puoi dare lezioni di bontone. Ma no, di bontone questo no. Questo lo voglio dire con tranquillità, no, dando il benvenuto e il saluto a Laura Marchesi, che è ritornata, so, bene, bene, sì, nel nostro lavoro, che non fa la pipì nel lavandino, sì, perché sì, certo, so, certo, che a differenza di quelle porcherie, no, di gente che frequenti tu. Per una donna è anche più complicato. Per una donna è anche più complicato. Porcherie di persone che frequenti tu. Perché ad esempio anche Andro Mercù, il nostro non solo imitatore, sì, ma insomma Mercù lì, ma sì, Android Mercù. Sì. Anche Mercù, che è uno di quegli sporcaccioni che tu hai corrotto nel fare la pipì nel lavandino. No, veramente. Fatti a casa mia non metterà più piede. Perché? Cioè io ti dico, ma Mercù, non è mai venuto, secondo me. Cioè... Mai verrà. Perché so che da quando sta con te a Milano e ti frequenta, fa la pipì nel lavandino. Questo, no, lo voglio dire, Mercù. Risulta, sì, sì, questo te lo dico io. Ma non mi perché risulta. Lo hai corrotto nell'anima, no, quell'uomo. No, no, corrotto, no, nell'anima. Ma no, non fa la pipì nel lavandino. No, fa, non la fa. Te lo dico io. Me l'hanno segnalato in tanti a Trieste, lì in quella zona. Ragazzi, io voglio iniziare questa trasmissione in questo modo. Vedi che stai tirando su col naso? Cioè, tiri su col naso. Cioè, non è che se uno ha un problema deve per forza tirare su col naso in trasmissione. Tiri su col naso, è imbarazzante, è francamente imbarazzante. Oh, mi scrive Robert Cannuna. Saluti da Scirana con l'ascella depilata alla perfezione. Tu direi di con l'ascella, si è depilato l'ascella, no, non ho capito. No, non lo so. Questo Annuna si è depilato l'ascella, amico mio. Ma chi cazzo frequenti in Israele? Uno che si depila l'ascella. Annuna! Ti depili l'ascella, no, no, non basta, lo so. Forse non voleva che si leggesse questo. Ho capito. Però, se ho sbagliato io stavolta io voglio iniziare con Odi Freddi. Sbagliato. Voglio iniziare con Odi Freddi. Sì, ma non lo conosce nessuno Stannuna. Beh, non è vero. Mettiti l'animo in pace. No, allora, il professor Pier Giorgio Odi Freddi, il quale pubblica un libro. Lo sapete, no? Chi è Pier Giorgio Odi Freddi? Matematico, eccetera, eccetera. È scienziato, pseudotale, eccetera. E dice che il 90% degli italiani è stupido. dice proprio così, il 90% sì, degli italiani sono di quelli che ascoltano, che telefonano alla Zanzara, avete dovuto aggiungere. No. Degli italiani. Tu sei d'accordo generale con questa cosa, con uno di Freddi, che il 90% degli italiani è stupido? No, di quelli che telefonano alla Zanzara. Tu sei d'accordo. No, il 90 no, il 30. Sì. Ma che il 30 è stupido, ma che dai patenti di stupidità in giro, dai. Almeno su il 30. Dice anche, tra l'altro, tra le altre cose, che Beppe Grillo è un minus abens, che i grillini sono peggio di lui, e forse tu sei d'accordo. Ma la cosa più incredibile è che sostiene che Papa Francesco dica un sacco di banalità, cosa su cui io sono perfettamente d'accordo. A lui piace Papa Ratzinger, e questo chi se ne frega, e non Papa Francesco. Quando lo chiamò Papa Francesco, il finto Papa Francesco, qui dalla Zanzara, per uno scherzo formidabile che è entrato nella, come dire, negli annali della radiofonia italiana, incensiamoci un po', non mi sembrava dell'idea che fosse uno banale, stupido o che dicesse delle cazzate. Caro Di Freddi, diciamola tutta, no? Pronto? Professor, professor sì? Pier Giorgio Di Freddi? Sì? Sono Francesco, buonasera. Oh, ma non mi dica, veramente? Il Francesco, il Santo Padre. Il Santo Padre, mi alzo in piedi perché almeno questo glielo voglio dare come rispetto. Mi spero fa molto piacere sentirla. Ti giuro, ha detto così. Papa Francesco lascia perplessi. Quando parla mi cadono le braccia. La misericordia, il vogliamoci bene, l'amore sono cose banali. Chi può essere contrario? Beh, sì, ma io sono d'accordo. Però quando poi ti chiama il Papa non è che proprio ti prostri un servo. Mi piacerebbe in ogni caso incontrarla privatamente. Le andrebbe di parlare con me di questa cosa? Molto volentieri. Vuole che dopo la messa del 25 mi fermi un pochettino? E guardi, non so se lei, beh, naturalmente il suo libretto di appuntamenti. Ah, ragazzi, uno che dice che il 90% degli italiani è stupido è veramente assurdo, dai, su, non però si può è dire. Interessante la parola libretto di appuntamenti. Il 90% degli italiani è stupido, non si può dire una cazzata del genere. Ma chi cazzo si sente, Di Freddi? Uno che solamente perché hai studiato gli altri sono stupidi? Cioè tu sei un iniziato perché ha studiato, fai il professore, gli altri sono stupidi perché votano Grillo in parte, dai, su, è veramente ridicolo. A proposito di Grillo, sul palco è sempre formidabile, non c'è dubbio, eh. Senti, l'unico politico che è dimagrito e che ancora con lo sto naso. Ma veramente, guarda, veramente pazzesco. Ti dico di più. Ho acceso l'aria condizionata. Grillo. Io ero arrivato a fare il comico. Dio, che belli ricordi queste piazze a pagamento. Dio, se mi ricordo. Io sono l'unico politico che ha fatto politica, è dimagrito e non guadagna più un cazzo. Ma pensa a te. Nel dopoguerra pensavamo solo alla figa e al successo. Hai capito? Io sono nato nel dopoguerra, nel periodo del boom. Pensavamo al grano, successo, figa, grano, figa, successo. I ragazzi di oggi non sono così, non mettono prima quella roba lì. Mettono altre cose, vogliono la connettività, essere insieme, decidere insieme. Vogliono l'ambiente, il verde, le piste ciclabili. Il cazzo della De, ma non è vero, rete, poi, ma non web, è vero, pensano alla figa, al successo come gli altri. Assolutamente, virtuale, nella ma rete. No, ma non è vero, vogliono scopare lo stesso. Ma dai, la gente su non fa più l'amore, evidente, perché vai con l'iPad, l'iPhone, e fa tutto lì nella rete, lo clicca. Dice che cosa voglio fare l'amore, sì, online. Sì, si fa un po' più di sesso allora, online, però. Lo fai tutto lì, è finito, non ti sporchi neanche più, non ha senso, no? È meraviglioso. Senti che succede nei gabinetti, senti che succede, senti. E sanno tutto di noi. Google ha comprato una società che si chiama Apostrof, dove collegano tutti gli oggetti con la rete. Noi abbiamo il frigorifero collegato col forno, il forno collegato col gabinetto. Il gabinetto ti fa le analisi delle urine, delle feci. Se fai le feci, il gabinetto avvisa il frigo di non comprare il colesterolo alto, non comprare più il formaggio. E il frigo non ordina più il formaggio al supermercato. E allora ti tocca, per essere libero, cagare dal vicino di casa, perché se no non ce la fa. Siamo contornati da oggetti collegati. Ora, ovviamente è formidabile, però non è così, ragazzi. Non è che se tu caghi, cioè lui vuole dire che è una società controllata, e questo lo sappiamo, ma non è che se caghi Google sa anche l'analisi delle tue analisi delle urine, dai, su, è una puttanata. Ma no, ma dai, tutto è una online, ma tutto mai, nella dai rete. Fermo lì. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Zanzara. Allora, sentite adesso che dice Filippo Facci sulla Puglia. Sai che c'è questa polemica sul turismo innescata da Briatore, sì, come no, che certo. Dice che praticamente in Puglia c'è un turismo da poveracci, sì, che non c'è, sì, un turismo per ricchi, che non ci sono gli alberghi adatti. Che non è vero. Beh sì, no, però c'è anche, anzi, ci sono dei resort, ragazzi, di cui non voglio fare il nome, ma sì, insomma, che sono, capito, famosissimi, è anche vero, è molto anche cari, sì, non ci anche, sono andato. Ma che c'entra che ci sono resort bellissimi? È anche vero, no, che al sud che in ci generale sono strutture. Al sud in generale ma non in Puglia. Le strutture Puglia fanno delle, schifo. Ma non, no, è vero, la Puglia invece è una delle regioni del sud, è la Svizzera del sud, la Puglia, bisogna dirlo. Sporco sempre più. Ma cioè, che con sporco, tutta la roba che c'è, tutto sporco. Ma quale sporco? La Puglia è la Svizzera del sud. Dici delle cose che in generale dicono, lasciate della Puglia. Diffami gratuitamente, facci, non è vero, facci. La Puglia è la Svizzera del Sud. Non magnificate la Puglia, perché c'è molto, cioè, il problema non è che non parlano l'inglese, le lingue, i camerieri, Filippo, ma non il problema è che spesso non parlano l'italiano, scusa, ti trattano, Filippo, male e, esatto, si accontentano, però il, quindi problema c'è, è sempre che da migliorare, Briatore, con o senza Briatore è rimasto. I camerieri non sanno gli italiani, l'italiano, poi litiga pure con Albano, eh. No, con Albano, col nipote, che Albano è il figlio, che cazzo è? Ci sono delle masserie! Chi se ne frega? Ma le masserie! Che palle ste masserie! Però... Ah! Dove andiamo? Pietro L'Aquila, vai! Pietro, no, anzi, Bruno Roma, vai, Bruno! Sì! Dimmi, Bruno, dimmi! Allora, io volevo intervenire sul fatto di questi, di questa aggressione che c'è stata sulla metro a, sì, Roma. Sì, pare che hanno preso anche il terzo. Hanno preso anche il terzo animale. Sì. Allora, queste cose volevo, bravo, animale, giusto, fare, bravo, il contrasto fra Roma e New York. Perché queste cose non succedono a New York? A parte che non è vero che non succedono, succederanno pure. Meno, no, forse. Succederanno, ma non lo puoi dire. Perché, ma non lo so, non ho i dati, magari succede, no, anche questo. No, io ti dico che non succedono. Perché? Perché c'è il citizen arrest. Cioè, se c'è una cosa di questo genere, non ci sono i codardi e la legge codarda che c'è in Italia. Ma che vuol dire? Cosa vuol lì dire? Ti saltano addosso in 20, in 30 donne, uomini, ragazzi, e continua, bambini, a ripetere questa cosa. Non è così, non è così. Uno ha tutto il diritto, anzi io voglio istituzionalizzare questa cosa qui. Ognuno ha il diritto di farsi i cazzi propri. Ecco, ma cioè, già il... l'ha detto Razzi, no, te l'ho detto, ma non mi interessa, ha il diritto di farsi i cazzi propri. Se uno si vuole allontanare perché vede una rissa, vede gente che si picchia, eccetera. Te lo dico da ha amico. Tutto, ma lascia perdere. È quella filosofia lì. Ma che non c'è nessuna l'individualismo, filosofia. Ma che c'entra l'individualismo? Uno ha il diritto di fare il cazzo, sì, che vuole, anche di allontanarsi. Razzi l'ha autorizzato. Sì, ma non è che siamo di fronte, ma dai, siamo di fronte a questo. Vabbè, Bruno, siamo allora di fronte all'elogio di Razzi. Ma sì, siete tutti, allora, Rambo. A me quello che è successo, sì, nella metro A di Roma, sì, sì, va bene, e quello che è successo, sì, invece a New York. Sì, ma io non lo so che è successo a New York. Che cosa vuoi dire, Bruno? Che a New York queste cose non succedono. Ma io te racconto, non lo so, è successo. Dove? A Roma. E chi se ne... che ti è successo a Roma? A Roma, dove il vagone pieno, sì, il vagone, sì, pieno, due americane, due turiste, sì, americane, turiste americane, in inglese mi hanno avvertito, dice guarda che t'ha rubato. Vabbè, qua, ma quello è un furto, che c'entra? Quello vedono è furto. Anch'io se vedo uno che ruba un portafoglio, è aperto quello, guarda che ti sta rubando il portafoglio, che cazzo vuol dire? Ma quello è un altro discorso, no? Cioè, se vedo uno che ha la mano, cioè, nel portafoglio e lo ruba, si è mosso. Ma nessuno si è mosso, va bene, ma in questo caso mi muoverei. Ma non c'è bene, come va bene, in America invece, sì, è in America che fa? Ma che obbligatorio? È obbligatorio. Anche l'Italia lo sarebbe. Vabbè, ciao Bruno, Mario, provincia di Milano, dai Mario. Pronto? Dimmi Mario, dimmi. Allora, io ho cominciato a fare La pipì nell'avandina nel lontano 1998. Addirittura, dai, quasi vent'anni fa. Ma scusa, ma adesso io non capisco perché abbiamo innescato questo argomento da un po' di tempo. Ora, francamente, non riesco a capire, al di là del fatto che uno lo può fare per esibizione, per raccontarlo qui alla radio, non capisco qual è l'utilità di fare la pipì nel lavandino. Cioè, me lo spieghi? Adesso vengo, mi spiego. Ma non c'è utilità, è anche scomodo, a meno che il lavandino non sia basso. Cioè, bisogna anche alzarsi per farla sul lavandino. Cioè, a meno che uno non sia alto, allora uno ci arriva. Cioè, ma è anche... Allora, ai tempi dell'università, quando si era con una bella ragazza e si aveva la necessità di darsi una rapida sciacquata proprio prima di quagliare, sì, sì. Non si aveva tempo di farsi il bidet, no? Sì. Allora si dava una rapida rinfrescata. Sì, poi sì. Rinfresca oggi, rinfresca domani. E allora abbiamo cominciato a un gruppo di amici, sì. abbiamo cominciato ad avere, diciamo, un certo piacere, una certa affinità con questa cosa qui, ma non nel nostro lavandino, ma a casa della fortunata di turno. Cioè, ma non ho capito, cioè, tu a casa tua pisci nel lavandino? Comunque, o no? Gente porcheria. No, cioè. A casa mia no. A casa tua, solamente a casa di altri pisci nel lavandino? Certo. Ma così, per sfregio, per che cosa? No, per sfregio, per quando ho la necessità di darmi una rapida rinfrescata prima di quagliare con la fanciulla. Ovviamente se lo ma dà la faccia dire, che è uguale. Ma cosa vuol dire? Cioè, cosa vuol dire? Perché? Cioè, perché si lava proprio la faccia praticamente, non dai. Ti capisci? Io... Perché si lava la faccia, è una cosa incomprensibile questa, perché non è tecnicamente, è difficile, capito? Tecnicamente è facilissimo ed è anche... Provateci. Ma no, io non ci provo perché non mi interessa. Ci è posso comodo, anche è comodo. Ma non è comodo, bello, tu sei comodo. Alto forse. Tu sei alto. Ma non tanto. Non per la media. E come ci arrivi, scusa? Ti devi alzare, che c'hai? Oppure c'hai il pisello di 50 centimetri? No, va bene. Se il lavandino è particolarmente alto, rinunci. Metti sulle punte. Ah, ti metti sulle punte. Appunto, uno si deve mettere sulle punte per pisciare, una cosa drammatica. Dai, su. Flavio, Rieti, vai, Flavio. Ciao Giuseppe. Dimmi. Allora, ti dico questa cosa. Io sono innamorato della mia capitale, che è Roma. Sì. Oggi ero in giro appunto per Roma, dopo molto tempo che non c'ero. Allora? Ho visto una cosa indegna. Una persona in Corso Vittorio si è abbassato i pantaloni, ha defecato, sì, davanti a tutti. Sì. Io, guarda, mi veniva da piangere perché è una cosa indegna, soprattutto per tutti i turisti. Insomma, che ma che Roma sia diventata una latrina, essi hanno scoperto che fanno di notte sesso, quella è la cosa forse meno importante, forse meno sporca. Naturalmente in corso in via dei Fori Imperiali, non so dove, due gay in partita. Poi lo notano solamente se sono gay, se sono eterosessuali non frega un cazzo a nessuno. Cioè, che Roma sia diventata da questo punto di vista una latrina incontrollabile, non c'è dubbio. Cioè, e allora? Sindaca, cortesemente la imploro di fare qualche cosa, perché è una cosa, non si può così, non si può. Non si può che? Non si può vedere una persona che caga in mezzo strada a Corso Vittorio in pieno giorno. Lo so, ma qui non c'è mai stato il controllo della città, cioè questo è il punto. Che c'è? Dico a questo. Cosa lei? Questo ci ha pensato un po' a fare questo intervento, va bene. Ma qual è il problema? Scusa, non può raccontare una cosa della sua città? Mi ha rallegrato la giornata. Ma questo se questo qua gli fa schifo quello che è avvenuto in una cosa della sua città, che problema c'è a raccontare? Ma sì, ma per carità. Cioè, sono cose che riguardano siamo Roma. Siamo tutti qua a prendere appunti, per carità. Bene, allora, Marco, quindi da Roma dice... Flavio da Rieti. Certo, sotto Flavio casa tua non cagheranno, magari. Perfetto. Sotto casa tua non cagheranno. Flavio da... No, vabbè. Casa mia no. Fermi, da Rieti. Fermi lì. Cruciani, io non sono per la monogamia. Perché non ci mettiamo insieme? Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital. JP Morgan Asset Management vi presenta La Zanzara. Onestamente, caro Parenzo, a te non interessa niente se a fare la cacca non sono sotto casa tua. Se fossero sotto casa tua, ti dovremmo sentire prima e dopo il traffico che rompi le palle perché qualcuno ha fatto la cacca sotto casa tua. Complimenti, guarda, veramente complimenti. Tu, Parenzo, col fisico poderoso che ti ritrovi, se assisti ad una scena, ad una rissa in metro, sei il primo a scappare, senti a me. Parenzo, ha ragione Cruciani, la Puglia è sporchissima, così come gran parte del sud, zero servizi e tanto sporco. Dovessimo solo risolvere il problema della pulizia e un pochettino dei servizi e diventerebbe altro che la California, o la Svizzera, come l'hai chiamata tu, Parenzo. Parenzo, tiri su col naso, da fastidio, da fastidio. Francesco da Torino, andiamo ragazzi, andiamo, Francesco, vai. Sono, ciao Giuseppe. Dimmi. Allora io ti chiamo perché sono stufo. Sì. Stufo. Di che cosa sei stufo? Degli animalisti, amico mio. Vabbè, ma adesso che è successo di nuovo? Cosa è successo? No, non è successo niente di nuovo, è che non possiamo più vivere così. Sono la lobby più potente che ci sia. Beh, non esageriamo, dai, su, non contano un cazzo per fortuna, dai, sì. Ma non è vero, non è vero. Guarda quello che stavano facendo a te, che ti stavano venendo. Ma che c'entra, roba vecchia, adesso che cosa c'è di nuovo? No, non c'è niente di nuovo, è la nostra vita che delle, di persone normali che sta diventando impossibile. Ho capito, ma per adesso non hanno messo il reato di carne, di cibarsi di carne tra reato. Tra poco, lo metteranno tra poco. No, non ti preoccupare, non è così, non è così. Lo comunque, metteranno tra poco, qui troverai sempre, un grande presidio nei confronti di queste cose, non ti preoccupare. Non avere, assolutamente, non avere paura. Ciao, ciao Francesco, ciao. A proposito, caro Parenzo, nessuno ha notato che sul palco di Palermo vota, dei 5 Stelle, diamo la notizia del 4 voto, dicembre, almeno. Ma chi se ne frega, diciamo, giornale radio, le notizie, che cazzo ce ne frega, no, il 4 diciamo, ma il 4 mancano dicembre due, si vota, ma poi mancano due mesi, basta. Intanto, però c'è la data, dai, ma il 4 diciamo dicembre c'è la si data. Vota per il referendum, va bene, d'accordo, va bene, il 4 dicembre, che qual è la discussione? Che discussione clamoroso, c'è? Ma cosa? Che non c'è nessuna, il governo ha deciso, non c'è nessuna cosa clamorosa, ha deciso che si vota il 4 dicembre, le polemiche sulla scheda, come è fatta la domanda, ma Luca, guarda, Telese che sta facendo questa grande battaglia democratica sul testo della scheda, ma non ce ne frega un cazzo, tante cose, guarda, tante non cose. Me ne frega di come è fatta la scheda, non me ne la frega gente discute niente. Solo di questo in queste ore, solo a casa di com'è tua. Come è scritto, a casa tua mia, discuto no, di questo, ma di come è scritto il testo. Allora ragazzi, a proposito di animalismo ridicolo, sul palco di Palermo c'era la signora Celentano. Non lo sai, Parenzo, c'era la signora Celentano che presentava uno dei due giorni, credo. Ottimo. Rosita Celentano, grillina, bravissima, animalista, Rosita. Convinta, con tutti. Bravissima, comunque simpatica. Ma non lo so, se è bravissima, ma no, che cazzo me ne frega che è bravissima. Molto brava, molto brava. Ma non c'è una persona che dice che non è brava, ormai dici di tutti che sono sì, bravi. No, Mauro tutti. Da Mantova. No, se vuoi ti faccio l'elenco. È facile prendersela con Donato, fai facile, insomma. Beh, facile, dai. Donato facile. Da Varese, Mario bravo. Da Mantova, l'altro farabutto Rosita. Ormai te la prendi solo con i leghisti. Savine da Bassa. Solo con i leghisti te la prendi, perché è più facile. Quello che ti chiama dice Giuseppe, ti voglio bene, Giuseppe. Poi si è scoperto che era che quel metrapanse lì, che poi si è scoperto essere indagato, non so se anche condannato usura, in primo grado, sì, usura, per usura. Usura il tuo amico, quello che gli dice Giuseppe, ti voglio dire una cosa, i Giuseppe. Politici fanno tutti schifo, ecco quello lì indagato per usura eccetera. Beh, non tutte sono brave indagato che... non lo so, condannato in primo grado mi interessa poco, però questa brava persona qua, ecco. Allora ragazzi, che stavo dicendo, palco di 5 Stelle, Rosita Celentano, a un certo punto si parla di lombrichi, tu non ci puoi credere, si parla di lombrichi. No, si parla di lombrichi. Ho capito, si parla di lombrichi, meglio di lombrichi che di gente che parla... fa la bebine. Ma di cosa ti stupisce, no, voglio dire? Palco dei 5 Stelle, un eurodeputato, capo degli eurodeputati, portavoce al Parlamento Europeo, come cazzo si chiama, Dario Tamburrani. Tamburrani, che ottimo, parla Tamburrani. Di lombricolage. Gli piace così. Ma tu sai che cos'è il lombricolage? No. No, non sai, no, cioè no, praticamente so. I fondi del caffè vengono messi dentro una specie di scatola, i fondi, sì, del, il lombri, fondi insieme a dei lombrichi, ti giuro, cioè depositando i fondi di caffè nell'ombricolage, i lombrichi li trasformano in concime che potrà essere usato per le piantine sul terrazzo o per un orto. Vabbè, capito? Gli piace cioè così. Praticamente c'è un orto casalingo. È una new economy alla fine questa. Ed è l'autoconcimazione, cioè tu non devi prendere il concime. Non serve più il concime. Con i lombrichi e con i fondi con del caffè. Ma è normale, i lombrichi. Vabbè, no. Tutti dovrebbero avere dei lombrichi a casa, anche Renzi, anche il dottor Boccia, ad esempio, della Confindustria. Mi stupisco che Boccia non abbia dei lombrichi a casa napoletana. No, quelli sprecano. Non capisco perché non hanno dei lombrichi. Tutti trasformare le fabbriche del dottor, ecco, questa è una proposta intelligente. Ad esempio, abbiamo chiesto di abolire tutte queste fabbriche, queste aziende, di chiuderle, sequestrarle a Boccia le fabbriche e trasformarle in una fabbrica di lombrichi meraviglioso, di concime naturale. Così, senti. Non è sbagliato. Guarda che è incredibile, però. Parlano di, vi giuro, parlano di lombrichi. Il signor lombrichi. Tamburrano. Non sarebbe meglio amministrare Roma, Torino, Parma, Livorno? Beh, ad esempio, sarebbe meglio. Questo è del Parlamento Europeo. Questo Tamburrano. Allora, non sarebbe meglio fare delle proposte al Parlamento Europeo che non si parli solo di lombrichi? Non sarebbe meglio? Ma questo magari le farà pure le proposte. Però, senti, allora, Dario Tamburrano parla di lombricolage. Comunque, c'è di peggio. Dai. Sul palco dei 5 Sisi, c'è sempre di peggio. Su questo ho già due. Aspetta. Questo si chiama lombricolage. Cos'è un lombricolage? Lombricolage è la contrazione di lombriche e bricolage, perché questo è un piccolo compostatore di fondi da caffè disegnato in CAD e stampato in 3D. C'è sempre lo stampaggio in 3D, senti ancora. Io sono un animalista convinta. Tu hai parlato di lombrichi. Il lombrico che vita fa per poter creare, cioè qui dentro ci metti i lombrichi, come funziona? Noi usiamo i lombrichi come nostro alleato, noi dobbiamo tornare ad essere alleati con la natura. I lombrichi qui dentro stanno perfettamente a proprio agio, perché i lombrichi, come qualsiasi essere vivente, quando non trovano un ambiente ideale scappano. E invece, anche se noi teniamo aperto, io un anno che sperimento questo giocattolo, diciamo, e non sono mai usciti perché trovano nutrienti la condizione ideale, anzi stanno talmente bene che fanno le uova e si moltiplicano, quindi la dimostrazione che sono il nostro perfetto alleato. Cioè, tu ti rendi conto, no? Cioè, questo signore al Parlamento Europeo usa questo lombricolage per il proprio orto, per l'orto. Ma è incredibile. Non è neanche un brutto consiglio. Ma i lombrichi, poi la Celentano si preoccupa dei lombrichi, naturalmente, no? Ma non è che si sfruttano i lombrichi. Lo sfruttamento dei lombrichi. Si mette dalla parte anche del. Va bene, ma dai, questo, ragazzi, non mi ma sembra. Ma come cazzo si fa? Dai, su. Ma non puoi dire che è normale! Non puoi dire che è normale, no, però, parlare di sfruttamento dei lombrichi. Non è normale! Non è normale. Non è normale. Più normale pisciare nel lavandino, allora. Beh, no. Sì. Beh, sì, questo sì, direi proprio sì, di no. Sì, questo sì, no. Assolutamente. No. Almeno quello è un atto naturale. Preoccuparsi dello sfruttamento dei lombrichi non è normale, è una patologia. Se tu sei preoccupato. Fare la pipì nel lavandino non è una cosa naturale. Ma perché? Lo sfruttamento dei lombrichi non è un argomento. Ma pone una questione. Ma qual è la questione? Crea un concime alternativo. Ma lascia perdere il concime alternativo. Un mercato nuovo può essere interessante. Senti, anche questo. Senti ancora la cosa. Senti ancora la scelta. Tu garantisci che non è uno sfruttamento un po', come si dice? È un'alleanza. È un'alleanza. Speriamo, perché sai, molte persone con gli animali creano delle alleanze strane, poi invece gli animali vengono pesantemente sfruttati, e questo... Io mi batterò tutta la vita perché ci sia etica, perché siamo, guardate, veramente siamo tutti uniti, non c'è distinzione tra l'essere umano e l'animale. Siamo tutti uniti, non c'è distinzione tra l'essere umano e l'animale. Vabbè, pure l'ombrico. Facciamo tutti parte di uno stesso sistema, quindi rispettare la natura e gli animali torna ancora a noi un bene. So. Diciamo che questo è un simbolo della nuova alleanza tra uomo e natura. Noi ci siamo allontanati dai cicli naturali, questo simula perfettamente un ciclo naturale che avviene da secoli, da millenni all'interno del terreno naturalmente. E quindi è come avere un animale domestico. Cioè, la cosa incredibile è che sul palco dei 5 Stelle a Palermo, adesso mi attaccheranno dicendo sei andato a prendere queste cose qui e non hai parlato delle altre cose, eccetera. No, non è questo. Hanno discusso per 15 minuti dei lombrichi, amici miei, dei lombrichi! I lombrichi al concime, non ne posso più. Marco Carrisi, chi è Marco Carrisi? Marco. Carrisi? Pronto! Ma chi sei? Marco Carrisi, vero? Marco Carrisi, ciao, caro, il vero Marco Carrisi, ciao. Bravo. Chi sei, il nipote di Albano? Sì. Beh, si chiama Carrisi, per favore. Ma che ne so, eri tu ieri dalla D'Urso? Eh sì, che ero io. Ah, ottimo. Come mi hai chiamato, amico mio? Eh no, tu mi hai chiamato, mi volevi sentire? No, non ti volevo sentire, qualcuno ha chiamato al centralino, altrimenti che è successo? Come va, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tutto a posto. Perfetto. Come sta lo zio, tutto bene? Lo zio sta bene? Sì, stanno tutti bene, grazie. Ce lo saluti tanto con affetto. Che ci volevi dire? Che ci volevi dire? Era un invito a tutti quanti voi per farvi venire in Puglia. Venite sempre in Puglia, vi aspettiamo a braccia aperte. Vabbè, ma adesso va bene, non è che sei l'ufficio stampa. Ragione, non è che sei l'ufficio stampa della Puglia, no, però difende la sua terra. Ma il motivo bello, per cui ci hai chiamato, perché tu ci hai chiamato, qual è il motivo? Scusa, spiegami. Il motivo della vostra telefonata è che... Ma non è la mia telefonata, qualcuno ha chiamato al centralino, no? Cioè, non ci è... ci siamo trovati. Ma che vuol dire ci siamo trovati? Avrei chiamato te, avrei chiamato. Non è che t'abbiamo... Io non mi ricordo di aver detto... Ma non è nato il collegamento, hai chiamato tu. Cioè, vabbè. Ci avete contattato. Ma non è vero, non è nessuno... È in questo momento che ci avete contattato. Ma non è così. Ma avete poi chi? Uno abbiamo... Siamo per invitarvi in Puglia perché abbiamo delle bellissime strutture. Ma non ce ne frega niente a noi, va bene? Questo la gente lo sa, che viene in Puglia lo stesso, le spiagge in Puglia sono infrequentabili ad agosto perché c'è troppa gente. Però, Marco, non ho capito, ma perché te la pigli tanto con Briatore? Briatore ha detto una cosa molto semplice: che al sud mancano le strutture, spesso le spiagge non sono pulite. Poi generalizzava anche sulla Puglia, ha detto delle cose che bisogna fare. No, il discorso è un altro: è che comunque cosa? Non si può generalizzare, non si può dire che in Puglia mancano le strutture lussuose. In Puglia c'è un po' di tutto, soddisfiamo tutte le esigenze di tutti i turisti. Vabbè, ma che sei, l'ufficio stampa della Puglia? No, non sono un ufficio stampa, ma ne parlo e sono il, diciamo, che parlo sei? A nome di tutti quanti i pugliesi che sono incazzati, che ho parlato di turisti. Ma non puoi parlare a nome dei pugliesi, al massimo parli a nome di Carrisi. Cioè, io parlo a nome mio, da un operatore turistico, e parlo anche a nome di tutti i pugliesi, perché sono tutti incazzati per questa cosa. Con Briatore, comunque, sono incazzati con Briatore. Comunque Briatore... Ma e può venire quando vuole in Puglia, può fare quello, ma ci mancherebbe altro, ma che ci deve ovviamente avere rispetto, giustamente cioè, ha mancato di rispetto pugliesi, ha mancato di rispetto nella maniera più assoluta. Non è che ha mancato di rispetto, è che comunque tu sai benissimo che i pugliesi si sono un po' arrabbiati per quello che è stato detto. E Facci, certo. Facci che ha detto che invece i camerieri non parlano pugliese, non parlano l'inglese, l'italiano, manco l'italiano. E i migliori operatori turistici sono anche al nord a gestire le strutture ricettive. Evidentemente, del nord, Marco, evidentemente questo qua che ha la moglie pugliese, peraltro, la compagna pugliese, perché è amico mio Facci, per cui conosce bene la Puglia, ci va sempre. Ha trovato dei camerieri che manco sanno l'italiano, così ha detto. Può darsi, ma forse non è venuto in Puglia. Ah, non è venuto in Puglia. Tutti i camerieri sono tutti perfetti in Puglia. Scusami. Tutti perfetti. Dai. Ma perché nelle altre parti d'Italia sono tutti perfetti? La perfezione non c'è. No, c'ha ragione. No, ma su questo, per carità. Vabbè. Allora, ciao, dai. Marco. Ciao. Dove c'è zanzara, c'è caciara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Dobbiamo fare un manifesto parenziano. Noi che pisciamo nel water pensiamo che chi va a prostitute sia un miserabile, siamo monogami e non tradiamo la nostra moglie. Ecco il manifesto pronto, eh? C'è un po' di luce alla fine in fondo al tunnel, c'è l'Italia per bene, quell'Italia c'è e sta alzando la testa e lo farà questa sera alle 2:30 quando diremo tutti vai Clinton, asfalta quel signore con quel parrucchino giallo, vai e colpisci, facci sognare, fai vedere che esiste un'altra America, l'America dei diritti, l'America democratica, l'America dell'accoglienza, l'America dell'asinello, vai asfalta quel parrucchino giallo razzino miliardario di Donald Trump, vai e colpisci. Giornalismo anglosassone sobrio e disincantato. Volevo segnalare a Parenzo e soprattutto non di parte. Volevo mai segnalare un giornalismo mai di parte. Volevo mai segnalare a Parenzo che il signor Trump è il principale sostenitore dello Stato di Israele. Dico solo questo. Non c'entra niente. Ho detto solo questo. No, per dire. C'entra niente. Alfredo Milano, vai Alfredo. Anche la Clinton mi pare. Pronto? Dimmi. Sì, ciao, senti, io volevo intervenire con riferimento a Di Freddi, che dici che tu difendevi, no? Lo contestavi perché dicevi che lui sostiene che il 90% degli italiani sono deficienti. Sì, sì. Ma tu hai fatto la stessa cosa, amico mio. In che senso, scusa? Perché quando hai voluto chiarire quello che diceva Grillo sulla società interconnessa, che quando andiamo a cagare ci fanno l'esame delle urine, l'esame delle feci, l'esame di sto cazzo. Quello era No, una... poi ho voluto dire, ma ragazzi, ma non è così, non è così. Non avevamo bisogno che ce lo dicessi tu. Non avevamo bisogno di cosa vuol tu. Dire, scusa, non ho capito. Quindi vuol dire che tu, siccome hai avuto la necessità di chiarire, pensi che siamo una manica di pirla. Ma tu sei completamente fuori di testa, cioè tu ti è partita la cotenna, cioè a te l'intercalare radiofonico, il pararadiofonico ti sembra una spiegazione agli ignoranti, ma di che parli? Di che cosa dici? Dici delle follie inaudite. Cosa dici? È quello che dici tu, caro mio Giuseppe. Senti, Odi Freddi ha detto il 90% degli italiani è deficiente, cioè ignorante, deficiente. E cosa ha detto Grillo? Ma io non lo penso, punto e basta, non c'è bisogno di te che mi spieghi quello che penso io. Lo so che ti brucia. Ma che cosa mi brucia? Ma non so di che stai parlando, di che parli. Parlando della società interconnessa, ha detto, signori, quando noi adesso andiamo in bagno, sei interconnesso con il frigorifero, quando andiamo a fare a urinare, ci fanno gli esami, ci fanno il DNA. Sì. Quando è terminato l'intervento, tu ti sei sentito il dovere di chiarire agli ascoltatori che quello che dicevano non era realizzabile. La conseguenza è che io penso di avere a che fare con gente che non sa in che mondo sta vivendo. Sì. Caro il mio Giuseppe Cruciani. Vabbè, allora sicuramente tu fai parte di quel 90% che descrive Grillo. Su questo non c'è dubbio. Guarda, su questo non c'è il minimo dubbio. Parte di quel 10% che va contro mano in autostrada, amico mio. Vai Alfredo, vai. Ciao. Daniele da Milano, vai. Ragazzi, buonasera. Dimmi Daniele. Non si sente, Gianni da Roma, vai. Viene eliminato. Vai, Gianni. Cruciani? Vai. Ciao, allora, premesso, vabbè, siete due coglioni, ma stasera... Sì, piacere, Parenzo. Chi è l'altro? Sul fatto, Gianni, fatto che hai detto due coglioni, dell'aggressione alla metropolitana, che le persone si dovevano fare i fatti loro, girare... Io non ho detto, io ho detto esattamente il contrario. A parte che lui ha detto il contrario. Esattamente il contrario, però lei ha un problema di udito, quindi... Bravo, no, stasera sono d'accordo con te, in generale. Io non ho detto che bisogna girarsi sempre dall'altra parte. Io ho detto semplicemente una cosa molto semplice. Il diritto, non il dovere, non è che uno deve per forza. Il diritto di farsi i cazzi propri. Quando ovviamente non ci siano delle cose... Io sono d'accordo con te, se tu mi dici che sei da solo e sei con tre persone che non sai se hanno coltelli, pistole, bastoni, allora sono d'accordissimo con te. Ma io quello dico, in una metropolitana, quando non... tu che ne sai? Lo sai dopo quello che è successo. Di persone stanno, se ti bastava che ognuna di loro spingesse questi tipi e non facevano un cazzo. È arrivato Rambo, quello che ha subito chiara la situazione di quello che succede dentro la metropolitana. Appartenente alle forze dell'ordine e ti dico che in quella situazione bastava poco per fermare questi cazzoni. Io non lo so se bastava poco, so solo che di fronte alla furia di tre persone, le altre persone, cioè quelli che hanno assistito alla scena, naturalmente si allontanano. Ma tu l'hai vista la scena? L'ho vista con le immagini, non ho visto né il prima né il dopo. Comunque le persone stanno lì, sono stanche, hanno i coglioni pieni di stare in metropolitana. Quel signore che ha chiamato prima, che ha detto che a New York non sarebbe accaduto, non è che non sarebbe accaduto, la gente avrebbe reagito in modo diverso. Ma che ne sai? Questa Gianni, a Roma c'è sta cosa che voglio teorizzare il diritto di ogni persona quando non ci sono delle situazioni chiarissime e lampanti, ma anche in quel caso devo dire la verità, di allontanarsi e farsi i cazzi propri, cioè non è che sta a meno che non ci sia una situazione, un bambino per terra o cose talmente chiare che sono, ma qui c'è una situazione, ma non lo sai, ma ci hanno raccontato, scusami Gianni, hanno raccontato 40 persone venerdì qui alla radio che qualche volta si sono messe in mezzo, hanno preso le botte, hanno salvato le persone sbagliate. Però lui ti sta dicendo un'altra cosa, questa persona qui. Sta dicendo? Lui è un poliziotto, ha un'ottica diversa. Ma di assoluto buon senso, ma non è che vuole che le persone vadano allo sbaraglio, si mettano nei guai o in difficoltà. Ti sta dicendo una cosa di buon senso, mi pare. Cioè, non è una cosa di buon senso, ma qui lascia perdere le cose di buon senso. Lascia stare il buon senso. No, non lascia stare il buon senso. Ognuno ha il diritto diritto di allontanarsi per paura, ha il diritto, il sacrosanto diritto di avere paura. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Perché non c'è il diritto di avere paura, Gianni? Non ma lo nessuno capisco. Chiede di fare spiegami. L'eroe. No, ma spiegami, Gianni, ma perché non intero, pure le signore che si buttavano addosso a queste le persone, ovviamente gli uomini. Non c'è il diritto di avere paura. Vabbè, allora, d'accordo. Sì, no, non c'è il diritto di avere paura. Ma certo. Di fronte a una situazione non chiara, con una rissa, però con tre che si accadono. Ma non è vero, ma non è vero. Da girarsi dall'altra parte, di fregarsene, perché siete diventati pure tutti Rambo, adesso anche sociologi, cioè no, l'indifferenza, la gente che si volta dall'altra parte, tutte parole inutili, tutte generalizzazioni. Beh, l'indifferenza c'è però, l'indifferenza sarebbe stata la stessa cosa, no, è, capito Cruciani? Ma è una cosa un po' diversa. Sai come diceva Antonio Gramsci, scusami, sì, Antonio Gramsci diceva odio gli indifferenti. Ecco, ha, questo detto è il punto. Ha detto la cazzata di stasera. Odio gli indifferenti, Claudio da Torino, diceva ha detto Gramsci. La cazzata di stasera. Ho capito. Però Claudio Antonio, da Torino, non vai. Io, Antonio Gramsci, se vai, ci stai sputando su un pezzo di storia di questo paese. Antonio Gramsci diceva odio diceva gli indifferenti. Diceva sul fascismo, dai, su appunto. Claudio da Torino, dai, c'entra. Pronto? Dai, Claudio, dai. Vabbè. Claudio, dimmi. Sì, sono qui. Dai, dai. Ciao Cruciani, io purtroppo volevo fare lo stesso intervento che ha appena fatto il signore prima di me, quindi sì. Onestamente non mi va di perdere tempo a estrapolare. Che volevi dire? Scusa, non ho capito. No, che appunto mi sembrava una teoria un po' codarda quello che tu cercavi di spiegare. Ma io non, spiegare, non ho detto no? Che, no, uno, no, che uno no, no, no, no, che è un coglione se interviene. Cioè uno non è un coglione se interviene. C'è il diritto di voltarsi dall'altra parte. C'è il diritto di avere paura. Perché, caso, perché non hai chiara la situazione. Vedi la gente che si menano dentro la, vedi la gente che si mena dentro la metropolitana. E c'è il diritto di allontanarsi. Lo vogliamo dire chiaro e tondo o no? Termini, cioè qui poi sono tutti Rambo... Sono tutti sociologi, no, l'indifferenza, assolutamente, bisogna sono intervenire. Tutti, ma... C'è il diritto di farsi gli affari propri. Quando la situazione, soprattutto quando la situazione non è chiara, ed è quello che è successo nella metropolitana di Roma, dove ci sono tre pazzi, l'ultimo è stato fermato adesso, che hanno aggredito le persone, ma sì, c'è ma stato anche un parapiglia donna, prima. Una signora anziana. Ma che vuol dire? Che ma che le donne sono necessariamente buone, brave? Beh, no, no, però più allora... delle volte non è, sono persone magari inermi che hanno vabbè, meno... Dai, vabbè. Via. Oh ragazzi, ma oggi si parla soprattutto di una cosa qui in Italia, non è che si del parla voto, di altro. Giusto, hai ragione. No, no, il referendum voto. Fissato il 4 dicembre, ci sarà tempo, mancano due mesi, già se ne parla troppo, però se ne parlerà certamente. Il 4 dicembre qualcuno dice che è troppo... Della scheda, di come hanno fatto la domanda, come è posta la domanda nella scheda, sì, lo so. Va bene, va bene. Ma però non è importante, sono temi, sono no, temi, si parla mio. Di una cosa, dell'intervista della signora Hilary Blasi, sì, la signora Hilary sì, Blasi, sì, la quale prende a male parole o tratta malissimo l'allenatore della Roma Spalletti. Sai che fra poco Totti farà, credo domani, 27 se non sbaglio, farà 40 anni o il 29, non mi ricordo, lo sa meglio la persona che abbiamo qui in linea collegata con grande stima. 40 anni li ho fatti anch'io, chi se ne frega. Sì, va bene, però Berlusconi fra poco ne farà 80, cioè 40 anni di il differenza. Il 29 di settembre, bravo. Che è 29 chi? Berlusconi 29. Berlusconi 29 settembre, Bersani lo stesso il 29 sì, settembre. Ma non fa la cifra tonda però, non c'è la no, cifra tonda. No. E anche mio figlio va questo. Ma chi se ne frega però? Cioè, no, lo dicevo per dire. Tuo figlio è 29 pure, sì, come sì, Berlusconi. Nato, nello stesso di Bersani. Sì, senatore, sì, senatore Gasparri ha capito, Bersani e Berlusconi sono nati lo stesso giorno. Lo sapevo, è noto, ma io mi meraviglio che Parenzo abbia 40 anni, io pensavo 15. No, no. Perché no, io allora è grave la cosa. 40, 40. No, ma in realtà si è appena fatti da poco, ma ne dimostra di più, ne dimostra di più no, in realtà. Dipende dai punti di vista. No, no, ma come così fisicamente. No, Parenzo è un mio, come dire, sparring partner. Beh, certo, dopo le performance del signor Semprini su Rai 3, anche quelle di Parenzo vanno rivalutate all'epoca. Totalmente, bravo. Parenzo è una star della televisione. Se lo chiamano deve rifiutare. No, troppo poco. Cosa? Vabbè. Cosa troppo poco? Se lo chiamano per fare un programma in prima serata su Rai 3, deve rifiutare, dice voglio Rai 1. Se i parametri sono Gasparri, i dati di ascolto, Parenzo c'ha un'autostrada davanti. Gasparri è simpatico come un gatto che ti si ficca delle mutande. Presente quando succede? No, no, scherzo, io gli voglio molto bene a Gasparri. Bisogna salutare, c'è mio cugino che chiede, intanto la saluta Gasparri, mio cugino. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? È sul taxi Aquila 30 e mi chiede se può fare un saluto Gasparri ad Aquila 30. Aquila 30, saluto tutti i tassisti, io difendo bravo. I tassisti, non so. Sono favorevole a tutte queste robe. Uber, queste robe Uber sono contrario. Va cancellato Uber va cancellato. Ma perché? Non si capisce perché. Abusivo, non si sa. Beh, Uber abusivo. Non sai dove sale. Abusivo, mica tanto, non mi pare però. Uber Addirittura anche abusivo, non... portarti in macchina, Parenzo, uno sale con la macchina. E perché no? Il bla bla car. Il bla bla car. Questo sarebbe forte. Parenzo, perché non fai l'autista di Uber ogni tanto? Potrei farlo, perché no? Certamente, perché no, io quella... ma lei andrebbe con Parenzo in macchina. Beh, no, anche perché ha preso la patente da poco. Ha preso la patente da poco, esattamente un anno fa. A 39 anni. Avanti, che dobbiamo dire? Che si dice? Allora, la prima cosa è Totti. Vabbè, allora Totti, Totti. Non si Totti può... è tutto. Totti è tutto. Non si può parlare per te con una specie di semi. C'hai la foto a casa, Morì? No, non ce la farò. Ce l'ho sull'iPad. Se l'ho, ce l'ho sull'iPad. Ah, sull'iPad, sul telefonino. Meglio far perdere il referendum a Renzi o come dire il Totti? Cosa potremmo Totti far fare? No, Totti, guarda, ormai io, in pensione. Non so le opinioni. Totti a volte, anzi, non è stato mai scritto dalla nostra parte. Totti vale come giocatore, come simbolo. No, anzi, è stato più avvicinato, è stato più avvicinato al PD, Sì, sì, qualche volta si fu Beltroni che tentò un pochino così, ma voglio dire, pensi quello che vuole, il suo. No, ma ha ragione Ilari Blasi. Ha ragione Ilari Blasi. È stata come a volte sono le donne, le mogli, è stata, ha detto quello che Totti non ha detto. Io per la verità oggi un mio collaboratore ha detto, ha visto che poi Ilari ha detto quello che io che non sono diciamo, ha detto un quello che di Totti, quello che avevo detto io, perché Spalletti, che è un buon allenatore, da qualche settimana ha dimostrato con le sue dichiarazioni di non sopportare questo favore popolare che c'è con Totti. Un paio di settimane fa, un mese fa, disse decide il popolo, dice il pubblico che deve giocare, ma lo disse in queste interviste dopo partire con un tono indispettito, come anche ieri quando lo stadio di Torino ha applaudito in piedi Totti, che comunque si voglia giudicare. E se beh, secondo me lui questo fatto non... Poi Spalletti soffre di una cosa, di che? Una società fantasma che non ha fatto un buon mercato. Ci sono dei giocatori. Hai detto, tu hai detto che Pallotta che deve fare? Che deve costruire un carcere? Ma ci si deve chiudere dentro scherzando, perché era un commento da tifoso. Perché Pallotta c'ha solo questa fissazione. E l'avete visto quel progetto dello stadio? Ci sono tre grattacieli. Sgarbi dice che è orripilante. Ora, io che si debba fare uno stadio, poi lo stadio è di proprietà non della Roma, è di una società sua, quindi c'è una distinzione, c'è un diaframma. E non mi pare una differenza da poco. Vabbè, ma addirittura se dice vedete il plastico, ci sono tre grattacieli accanto. Ora, secondo me, quando hanno fatto il progetto, prima hanno fatto il progetto gli architetti dei grattacieli, tutta questa cubatura, poi hanno detto, oh, e lo stadio? Ah già, porca miseria, bisogna fare anche lo stadio, l'hanno aggiunto dopo. Io non ho mai visto uno stadio con tre grattacieli accanto. Cioè, ma perché dovrebbe costruire un carcere e chiudersi dentro? Non ho capito. Ma era una battuta per dire che mi pare una passione per il cemento, questa che hanno, no? Perché io non ho capito. Cioè, uno, il vero palazzinaro di Roma è lui, Pallotta è il vero palazzinaro. Io dico, vedo un progetto, io ho visto sui giornali la foto, vedo quello che leggono, no? Notizie riservate. Ora, che bisogno c'è di fare tre grattacieli? Non lo so, ma per fare business, è chiaro, per fare soldi. Questo è legittimo, però. Allora, però, quando un presidente può anche avere un progetto di questo tipo, però voglio capire, perché lo stadio è di proprietà di una società? Ma questo non lo so, sono tecnicalità. Lo sono dico io, no? Secondo, un presidente che non c'è, insomma, non si vede mai, non segue la società, sta da un'altra parte del mondo. Anche Tohir stava da un'altra parte del mondo, finché è stato alla guida dell'Inter. Ma io dico, ma ha ragione Ilari quando dice che Spalletti è un piccolo uomo? Cioè che... Spalletti ha fatto una serie di errori, io ho letto... No, ma quando dice che è un piccolo uomo dal punto di vista umano... No, vabbè, quella è un'espressione della donna di Totti, quindi c'è un di più, no? Io dico che è molto confuso, come ho detto io rispondo di me. Lui è invidioso, certamente, invidioso di Totti. Lo ha trattato male. Quando lei ricorda la Ilari Blasi, quando l'anno scorso Totti si sentì un po' accantonato e fece un'intervista al TG1 un po' polemica, lui reagì e lo tolse dalla rosa. Ora Totti ha una tale popolarità e un peso nella vita della Roma che se sbaglia, e forse ha sbagliato a fare l'intervista, ha diritto a essere chiamato a porte chiuse, a un chiarimento. Non è che lo... Ma come finisce sta cosa? Come finisce sta cosa? Io spero che la Roma abbia un sussulto, si riprenda. No, ma Spalletti, però... ma che Spalletti deve andare via, perché qui alla fine quando la moglie di un campione, quando la moglie la moglie di un campione dice che quello è un piccolo uomo, bello, eccetera. Vabbè, no, questo finisce per essere un'esagerazione che rafforza Spalletti, no, ovviamente. Ah, ecco, appunto. Io, siccome Spalletti è un buon allenatore, deve però avere la consapevolezza che Totti va trattato con rispetto e lui in questi mesi non lo ha trattato con rispetto. Poi se Totti è in forma, c'ha 40 però anni, questa cosa qua rischia di rafforzare Spalletti. No, perché è talmente forse forte il giudizio che, ripeto, come tutte le cose eccessive, io finisce per rafforzare Spalletti. Appunto, dico, io... a me il problema della Roma è che Spalletti ha avallato una campagna qui. Vabbè, ma questo è un altro io discorso. Vorrei sapere, ma lo sa che la Roma, io adesso io mi auguro, c'è un giocatore che si chiama Gerson, un giovane brasiliano, sì, Gerson, credo che abbia 19 anni. Lorenzo lo conosce benissimo. Leggo che avrebbero pagato 17 milioni di euro, cioè costa un quarto di Higuain. Io mi auguro che abbiano fatto l'affare della vita, che questo ragazzo da 10 anni, perché per adesso a parlarne, non lo so, lei sa, non lo so, non ho visto niente. Parlo con la tifosa. Io però voglio chiedere una cosa, Gaspar. Mi auguro che sia il novello Maradona, il novello Falcao. 17 milioni. Lo sai che io voglio capire una cosa, voglio dirimere una questione fondamentale, ma alla fine a chi assomiglia Gasparri? Perché nei giorni Gasparri. No, a chi assomiglia Gasparri? Fisicamente. Sì, perché no, perché è vero, qualche vicinanza c'è però tra Parenzo e Gasparri. Ma sì, ma perché no? Ma adesso su questo non entriamo nel merito. No, però voglio dire. Ma che bello. No, voglio dire che qualcuno ha detto che è vero che tua moglie ha detto che tu assomigli ad Al Pacino. Sì, la mia moglie sta qui con me. Adesso mia moglie, questa cosa che disse una volta alla radio, che da ragazzo assomigliava Al Pacino, mi prendono in giro. Mia moglie è qui, se vuoi gliela passo. Passa. Mia moglie. Come si chiama? Non mi ricordo più. Si chiama Amina, un nome molto particolare. Molto un nome arabo. Mia moglie che è qui con me casualmente, così non è come Hillary, però ecco, siccome lei mi ha messo in questo guaio di fare simpatica la signora, paragone, molto simpatica. Adesso le passo mia moglie. L'ho vista al cinema io la signora Amina, simpatica. Signora Mina? Pronto? Buonasera. Buonasera, buonasera. Molto lieto, complimenti Parenzo, signora. Parenzo è sempre molto cerimonioso. No, dico bene, è bello avere la moglie di Gasparri. Allora, è vero che lei ha fatto questa cosa qua, questo paragone tra suo marito e Al Pacino, non ho capito. Ma è una cosa che poteva sembrare così, una parvenza di somiglianza, ma parliamo di 35 anni fa. Sì, ma è vero, a pensarci bene forse 35 è anni fa somigliava ad Al Pacino. Ma sì, perché chiaramente aveva un tratto più giovane. Meglio però Al Pacino di Alvaro Vitali, quindi no, non era male. Non diciamo corbellerie troppo grosse. No, ma era Alvaro Vitali, proprio l'augura a qualcun altro. Beh, adesso, povero Alvaro Vitali, adesso non è che sia così brutto. No, Porello, per carità. Appunto, adesso, insomma, non buttiamolo giù, signor Alvaro Vitali. Comunque sì, una somiglianza. Ma lei lo considera molto affascinante, suo marito? Beh, sì, naturalmente. Cioè, lo considera un uomo affascinante? Beh, certo. Assolutamente sì. Bello, cioè bello certo, anche fisicamente bello. No, ma io sono curioso, ma per carità. Cioè, è una persona di spessore, è una persona sicuramente affascinante, una persona che ti parla. È un bell'uomo? Ma un bell'uomo? Certo. Ha tantissime cose, che riesce comunque ad affrontare qualsiasi argomento. Direi che questo è più che sufficiente. Ma un bell'uomo. Mi incuriosisce molto, signora, perché lei dice che voterà Renzi, cioè che ha votato Renzi al referendum? Chi ha votato Renzi? Lei, mi so che lei è una renziana di ferro. No, non lo so. Per favore. Vediamo notizie false così improvvisamente. La moglie di Gasparri dice numero uno, perché poi io posso diventare anche un po', come dire, troppo sincera. No, ma quindi deve essere sincera. Sì, infatti, io non voto Renzi, non lo voterò mai. Mai. Come lo considero? Un pericolo per l'Italia? Assoluto. Ma io lo considero un pericolo in quanto è abbastanza vuoto. Sta facendo nulla se non perdere tempo e imbastire soltanto discorsi su discorsi che non servono assolutamente a nulla. Però adesso le ripasso l'intervistato. Ma lei è molto sincera però quando parla. Sì, molto sincera. Esatto. A chi assomiglia invece adesso? 30, scusi, una cosa sola. 35 Prego. Anni fa assomigliava ad Al Pacino. Oggi a chi assomiglia suo marito? A qualcuno assomiglia? Ad Al Pacino dopo 35 anni. Arrivederci. Ah, Al Pacino invecchiato. Conferma. Conferma tutto. Qui abbiamo Hillary numero 2 qua in medaglia. Ma tua moglie è eccezionale però. Cioè, la moglie è una persona. No, ma è eccezionale. Nel senso che pane va al pane, qui se restava altri tre minuti te facciamo divorziare qua. Anzi, mi ha difeso, ho sentito. Aspetta un attimo, fermo, c'è la pubblicità. Trovatevi un lavoro, cazzo. La Zanzara. Ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. Allora, abbiamo con noi Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. Allora, Maurizio, che è successo? Un altro casino con la Littizzetto qui, vedo. Cioè, mi segnalano, a me in tempo reale. Ma io mi diverso, loro hanno fatto tutto loro, guardi. La Littizzetto mi cita sempre nei suoi sì. Monologhi. Nelle sue performance, mi cita come vabbè, quello è buono però, è positiva come cosa. È positivo, quindi hanno l'ossessione alcuni. Io li ossessiono. Cioè, è ossessionato da te, è ossessionato da te. I suoi ospiti. Ma hanno scritto loro. Gasparri, se ci vede in televisione tutti insieme gli viene un colpo. Sì. Io intanto non l'ho visti e poi non è che mi verrebbe un colpo. E allora gli ho detto, gli ho risposto su Twitter, perché il programma non l'ho sì. visto, che c'era la raccolta differenziata, perché li erano messi tutti insieme. Cioè loro prendono in giro me, io prendo in giro loro, scusi, no? Era par condicio. Sì, questo ci sta, su questo ha ragione. Di sfottermi perché lo fanno loro . E io replico anch'io un po', come dire, no? Beh, però, ma non ti scappa ogni tanto qualche risata con la Littizzetto? Proprio non ti fa ridere? Sì, no, la Littizzetto è anche simpatica a volte, è brillante, certo, non c'è dubbio. Però se tu sfotti, io ti risfotto, no? Cioè, io sono per la cosa, se sfotti, ti risfotto, se sfotti, ti risfotto, se sfotti, ti risfotto. Io non è che l'ho citato ieri, ma ha citato prima lei, poi per loro ospiti, perché ho letto su Twitter sta roba, e allora appena mi hanno informato, sai, io poi. C'ho tanti amici che mi mandano un WhatsApp, un SMS. Poi non sai resistere, tu non sai resistere alla polemica. Non sai resistere alla polemica, rispondi. Ma io sono uno reattivo. Vabbè, ma hai ragione su questo. Cioè, reagire su Twitter significa essere vivi, tu dici. Uno dimostra... No, voglio dire, se mi capita, poi se sto facendo una cosa, uno lo fai 3 ore dopo, anche il giorno dopo se capita. Però io sono abituato a non lasciare l'ultima parola, anche in politica, no? E a me non piace lasciare l'ultima parola. Devi sempre rispondere fino alla fine. Finché ce la faccio, ma era un giorno che non risponderò più. Senti, ma tu lo faresti alla fine? Oggi c'è una polemica in Italia sul fatto che c'è un sindaco, dopo lo sentiremo se pigliamo il telefono perché ancora non ha risposto, un sindaco che praticamente fa l'obiezione di coscienza alle nozze gay, no? Un sindaco credo nel Canavese a Torino, e c'è una polemica e lui dice perché non solo non vuole fare lui matrimonio, ma lo impedisce anche, non dà pazzesco. La delega per farlo ad altri. Pazzesco. E dice se vogliono questi qua Io sono contrario a quella legge, ho votato contro. Ma tu lo faresti un matrimonio se qualcuno ti chiede io di fare un... Non lo celebrerei. No. Però se c'è la legge va comunque applicata, si trova. Vabbè, quello d'accordo. Però ma tu non lo celebreresti? La mia tesi è che le forme di convivenza e di diritti si potevano regolare con un diverso. No, ma questo lo sappiamo come la pensi. Però ma tu su quella legge c'è. Ce l'avrai due amici gay, no? Magari te lo chiedono. Che fai? Dici di no, io non lo celebro. No, non è mica obbligatorio, tanto non è che se non lo celebro io non si celebra. Mica la mia io non sono stato sindaco, però ho celebrato dei matrimoni su deleghe di appunto, sindaci. No, se due amici ce l'avrai una coppia. Ce l'avrai una coppia di amici gay o non li conosci due? Sì, ma sicuramente ci può essere. Gli direi grazie, se sono amici spiegherei con educazione la mia indisponibilità, che non impedirebbe loro di usare una legge. Se sono migliaia no, infatti in possono andare dall'ufficiale quindi, di anagrafe. Non è che io sono per entrare, irrompere, impedire. Poi una cosa che vi chiedo a voi che trattate sempre questi temi, ma perché non fanno alcuni una cosa normale? Io vedo sempre questi pochi matrimoni, ha visto quanto sono pochi, quanto queste unioni anzi, quanto sono pochi. Beh oddio, quindi, si sposano in tutta Italia per adesso. Però faccio richiesta di quante sono, non c'era. Beh non lo so, adesso. Vediamo, aspettiamo, aspettiamo. Ma perché devono sempre fare tutti i vestiti in maniera sgargiante? Cioè? Ma è una cosa normale, insomma. Cioè sono matrimoni troppo, tu dici troppo... A volte sembrano più manifestazioni politiche che unioni. Cioè sembrano più delle iniziative di propaganda, uno può fare la propria. Per adesso col culo di fuori non ci sono andati però come al Gay Pride. Questo no, però tutti quanti con palandrane, cilindri, cose. Beh, vabbè, cilindri pure Giannino si è sposato col cilindro. No, ma pure Dotti, mi pare. Sì, appunto, dai, su. No, mi raccomando, di sobrietà. Mi raccomando stasera tutti forza Hillary, perché so che Gasparri Ma perché sei fissato su questa cosa? Stasera c'è il grande match alle 2:30 del mattino, ora italiana. Hillary quell'altra, no, io sono per Hillary Totti, no. C'è una sola Hillary per noi. Sì, no. No, ma tu so che se fossi cittadino americano voteresti per Hillary, questo sono sicuro. Ma figurati, voterebbe Trump tutta la vita. Tapperei il naso e voterei Trump. Come? Non mi esalta, ma la Clinton è imbotabile. Quell'altra mamma com'era? Mia. Inguardabile, come dicevano. La culona inchiavabile, sì. Che poi è falsa la frase. Beh, le posso dire una cosa? Ormai... Dotti fa 40 anni, adesso Berlusconi ne fa 80. Sì. Per fargli gli auguri gli dirò di consolarsi, perché vedevo oggi, facevo una riflessione. È uscito il film I Magnifici 7. Sì. Quando è uscito io ero già nato, ma ero bambino, avevo 5 anni. E allora? Poi adesso esce il film Ben-Hur, ha visto il remake? Sì, il remake. Sì, sì. Quindi nel cinema è come se fosse 50 anni fa. Quindi ero a Berlusconi. Vai al cinema e immagina di avere 30 anni, perché riescono film di 50 anni fa, siamo retrodatati. Però no? Io voglio dire una cosa, a proposito sempre di gay, no? Sì, in polizia, in polizia ogni tanto esce fuori, c'è stato pure una mezza, ci sarà una manifestazione. Ma secondo te i gay sono adatti a fare i poliziotti? Ma guardi, non c'è un impedimento assolutamente, dopodiché il poliziotto deve avere delle attitudini per poter anche affrontare l'ordine pubblico, ci sono tante donne. E dunque sono inadatti i gay? No, non c'è un impedimento, uno può essere uomo, donna e no, quello d'accordo, adatto, però tu stai dicendo... Non vedo una preclusione, dopodiché uno deve anche avere quelle attitudini professionali che si richiedono. Per esempio c'è stata tanta polemica quando hanno mandato le donne a fare servizio di ordine pubblico, poi lo fanno. No, voglio dire, per esempio i trans, pare che i trans non li mandino a fare i servizi operativi. Ci sono dei trans? Non lo so se ci sono dei trans, lì c'è un problema diverso, insomma. No, ma ci sono. È una cosa già francamente che trovo, insomma, opinabile, là c'è un discorso diverso. Ma perché non si capisce quale sia qua? Poi con la teoria è importante che faccia bene il mestiere. Cioè che sono contro natura, sono contro natura. Ma la trovo una posizione, come dire, un non po' è posizione, estrema, non lo so se possa essere, non so come neanche estrema. Se è arruolabile, guardi, perché sì, poi, sì, siccome uno è uomo, come no, perché uno è uomo, poi si sente donna. Questo passo finiranno per arruolare anche Parenzo, ma che c'è? Questa è una battuta, Parenzo. Cioè non dovrebbero esserci trans, tu dici trans, non ci dovrebbero essere, se uno è trans, se uno scopre... Non lo so, non ne Trump non dovrebbe esserci, altro che trans, Trump, no trans. No, voglio dire. Trump non dovrebbe essere. Con il naso otturato perché non mi esalta, però la Clinton è invotabile. No, voglio dire una cosa. Preferisco la Blasi. Ma secondo te i trans? È un Salvini con i capelli gialli. Stai votando un Salvini con i capelli gialli. Io credo che per essere arruolati e svolgere determinate funzioni bisogna essere in condizione psicofisica. Ma che vuol dire? Vabbè, quello d'accordo. Se c'è un transessuale che dovesse essere, che si veste da uomo, da donna, da altre cose, questo diventa un problema, no? Cioè i trans non possono, secondo te, non possono stare. Se una persona che ha un fisico di un certo sesso e poi si veste in un altro modo, questo può essere un problema nell'ambito anche della forza di polizia. Ma che problema è? Sarebbe meglio che non ci fossero, diciamo. Se uno diventa se uno si accorge di essere di un altro sesso, deve dimettersi dalla polizia. A quale sesso appartiene? Il transessuale, cioè. Sono i trans, che sono contro natura i trans. Ma a un certo punto io credo che ci sia sempre una fisicità maschile o femminile, capito, ma ci sono delle omosessuale persone... che però ha anche una sua fisicità di un certo tipo, giusto? Ma sì, il transessuale ha una fisicità di un tipo, poi si veste in un altro modo, francamente andiamo su situazioni molto discutibili, immorali, dici? Immorali. No, dico opinabili, dopodiché io credo che la selezione nell'arruolamento, nella valutazione di attitudini e anche una condizione generale debba valutare con attenzione questi aspetti. Se uno ti dice sono gay, no, secondo te bisogna valutare se arruolarlo o no? No, se una persona è gay non c'è un impedimento all'arruolamento. E però, ti credo. Cioè, devo dire che la persona può essere maschio, femmina, gay, deve avere delle quello tu di dirlo. Fare il poliziotto e il soldato perché può essere chiamato a sparare. Ma per forza questo che c'entra? Nell'ordine pubblico è diverso da mettere timbri in un ufficio, no? Può darsi che anche io e lei non siamo adatti fare un certo tipo di lavoro che questo comporta sicuro. Un rischio, una tenuta psicologica, cioè uno che non ha un controllo emotivo e c'ha un'arma in mano può essere maschio. Ma perché uno omosessuale non deve avere il controllo emotivo? Non si può arruolare, no, certo, no? C'è dubbio. Ti fanno degli esami e delle verifiche, perché uno con la pistola ti prende il panico e spara la gente, che fa? No, per carità, per carità. Quindi il problema è di verificare delle attitudini e delle doti psicofisiche, al di là della declinazione. Va bene, comunque sessuale. Comunque della Rai non abbiamo parlato, Parenzo, della Rai non abbiamo detto niente. Che vogliamo dire? Attenzione. Niente, che vuoi dire? Pensa di commissariare la Rai, fa un errore, ha sbagliato la legge. No, ma quello non vuole... tutti i poteri. No, ma lascia perdere questa cosa qua. Sto dicendo di questa roba di Rai 3, cioè di questa roba di che sta succedendo a Rai 3. Cioè, vogliamo dire gli ascolti. Gli ascolti, Guardi, caro Cruciani, lei è un esperto. No, esperto di ascolti no. Gli ascolti non sono un fatto ideologico. Io contesto la ricerca fuori dalla Rai. Avevano in Rai un sacco di gente. Cioè, tu dici, potevano, cioè secondo me, io ho detto, hanno fatto male a prendere la Vignardi o a prendere Semprini, ma perché ci sono all'interno della Rai 50-100 persone in grado di fare la stessa cosa, quella... E quindi un'azienda deve credere in se stessa. Ma questo l'ho detto prima dei dati di ascolto. Non mi ricordo. Può darsi che si aggiusta lungo la stagione. Auguri. Ma che la Vignardi non sia in grado di dirigere una rete televisiva, ma bastava chiederlo al primo passante. Avrebbe risposto la Vignardi. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Allora, Antonio da Roma, vai, Antonio. Ciao, ciao Cruciani, mi hai deluso profondamente perché io pensavo che c'era uno che c'aveva le palle, visto. Ma su che cosa? Sul fatto di questo ragazzo che è stato aggredito. Ma non c'è stato. Allora, ragazzi, il fatto che sia stata un'aggressione fatta in quel modo l'abbiamo saputo dai telegiornali, dai racconti sul web, dai giornali, eccetera. Non è che quando sei lì, sai, c'è stata un'aggressione nei confronti. No, vedi due persone che si menano, e in particolare una donna per terra, quello dopo, ecco, un'altra punto. Persona che viene presa a calci, ma non sappiamo quali sono le parti in causa. Non sappiamo chi è il colpevole, chi è l'innocente, chi ha iniziato. Chi non ha iniziato? Sì, ma tu rivendichi il diritto di girarti, di girare. No, il diritto di avere paura. Il diritto di avere paura. Io non lo so come mi comporterei, allora, perché non mi sono mai trovato. Il diritto di avere paura. Stiamo non c'è il diritto. Tutti, non c'è il diritto di avere paura, ragazzi. Siete tutti Rambo, perché? Va bene. No, va bene. Non è Rambo, Giuseppe. Non è Rambo. È questione che bisogna prendersi responsabilità. Non ti hanno insegnato c'entra? a scuola non ti hanno insegnato che se c'era. Quello che faceva il bullo, sì. Che menava tutti. Sì, ma quando è chiaro, quando è chiaro che c'è un la bullo, coscienza è civile, la capisci, sì, cosa ragazzi, vuol dire della ma siete tutti civile. Bravi. Quando ma è chiaro l'ABC questo da vita, Luciano, se facciamo tutti così, questo paese diventa una merda. Tu fai le battaglie civili giustamente a Napoli contro la Camorra, tutto quanto, e poi dopo che fai? Fai no, la io ho detto un'altra cosa. La mentalità mafiosa. No, scusa, io ho detto un'altra cosa, Antonio. Io ho detto che ognuno ha il diritto di fare quello che vuole e nei casi, come dire, lampanti, evidenti, bisogna intervenire. Molte persone non intervengono, io non posso dare torto a queste persone, perché è evidente che se tu in metropolitana vedi una rissa in corso, la maggior parte delle volte che intervieni, primo prendi le botte, secondo non si capisce a che titolo intervieni e perché. Prendi le botte, qual è il problema? Ma ho capito, ma la gente potrà non volere prendere le botte o no? Oppure no, perché nella vita bisogna pure prendere le botte. Vabbè, d'accordo, allora uno interviene. Tu intervieni senza sapere nulla, praticamente, senza sapere nulla, perché non sai chi sono i buoni, certo, chi sono i cattivi. Tre che stanno a meno a uno, con la madre vicino a fianco che sì. Sta adesso a lo sai, adesso lo sai, perché te l'hanno raccontato. La donna anziana, la vedi. Ma che ne sai quello che c'è stato prima o dopo? Ragazzi, siete tutti bravi, perché a cose fatte. Perché io ho preso i cazzotti in faccia per difendere una persona. Una vita mia, io ho preso. Ma se l'hai fatto, hai fatto bene. Io non ti sto dicendo che hai fatto male. E dopo si sono fatti pure tutti i cazzi loro. Sono venuti solo a dirmi: se vuoi, ti faccio la testimone. Però scusami, Antonio, io sto dicendo. Però ho preso anche i cazzotti in faccia e continuerò a prenderli nella vita. Io perché nella vita bisogna sporcarsi le mani, capisci? Sennò il paese va a fondo. Antonio, ma questo io sono d'accordo con te in linea generale. Sto dicendo semplicemente che chi non è intervenuto in metropolitana e la madre, quella che era per terra, si è incazzata dicendo siamo stati da soli, nessuno è intervenuto, eccetera. Purtroppo non sapeva niente, le cose non erano chiare. Di fronte a quella che sembrava una rissa, anche se c'erano delle persone per terra, è naturale allontanarsi. È abbastanza naturale. Non è naturale. Allora, perché tu hai paura. È la paura che dobbiamo vincere. Perché nel sud la mentalità mafiosa purtroppo non è solo dalla paura. Antonio, capisci? Io capisco quello che dici te, ma io non sto dicendo che bisogna avere paura, sto dicendo che c'è anche il diritto di avere paura in questo caso quando le cose non sono chiare. Però meno male che esistono persone come questo ascoltatore, meno male che esistono persone come Antonio da Roma. Dobbiamo dire grazie ai tanti Antonio da Roma, perché se il mondo fosse tutto popolato dai razzi, da Antonio razzi, te lo dico, dalla filosofia del te lo dico da amico, tu quando vedi una cosa che dici io non mi impiccio, mi giro, guarda, lo faccio anche, mi giro dall'altra parte, che è una delle cose più brutte che possono accadere, il silenzio. Cruciani, sei immorale. JP Morgan Asset Management vi presenta La Zanzara. All'università vado almeno 5 volte a pisciare, ma le mani non me le lavo mai. Non scordatevi il numero del cuore, 393 71 71 701. Eugenio Pordenone, vai. Allora, Eugenio, vai, quando dimmi. Senti parlare, sì. No, quando senti parlare Gasparri, vicepresidente del Senato, ti viene in mente la canzone degli Sfiantos che dice: cosa pretendi da un paese che ha la forma di una scarpa? comunque, dopo questa breve digressione, volevo dire io quasi ogni giorno combatto la mia battaglia contro gli animalisti. Cioè? Anche Parenzo, lo sai, è un animalista, no? L'uomo dalla dura cervice, che fa tanto perché lui ha il vitello d'oro in tasca e gli ricorda le sue origini, no? Che c'entra con l'animalismo questo, il vitello d'oro in tasca? Non il vitello. È vitello d'oro, cioè il suo popolo è stato liberato da Dio e Mosè va là a prendere le tavole e loro cosa fanno? Come si fa a vivere? Il vitello d'oro a festeggiare. Mi spiega come si vive con le flatulenze nel cervello? Come si fa a vivere? Eccezionale. Come si fa a vivere avendo la flatulenza nel cervello? Non è sbagliato quello che ha detto. Non è sbagliato. No. Ma che gli dai bordone? No, gli do bordone. Con l'anarchia sfugosa. Non ho capito, scusami, non ho capito. Stai attento. Come si vive? La moglie a casa con una bella anarchia su cosa? Come si vive? Ma perché dovrebbe stare? Tu stai dicendo la stessa cosa che lui dice agli ascoltatori ogni tanto, gliela dici te adesso. No, che... lui no, è, non dico no, cose così volgari. Bastone nodoso, no, bastone nodoso. In testa, però. Bisognerebbe, ma che ne bisognerebbe, sai? Con chi bisognerebbe tiraglielo in testa questo, ma, qui, sì, il bastone nodoso. Con uno così in parte, cosa fai? Ma ti rendi conto? Vabbè, ma adesso, cioè, qual è la polemica? Dice... qual è la polemica? Non ho capito. Uno deve partire anche. Cioè, non è che uno può partire. Non è che uno può partire dicendo quello. È tua moglie è così. Pazzo, idiota. Ci deve essere una polemica. Deve partire da. Perché lui deve stare sotto, no? Le persone non le lascia. Ma non è vero. A parte mi pare che le sue stupidaggini le sta dicendo purtroppo in grande libertà. Purtroppo. Prego. Mi dica. Sembra di capire che le sue stupidaggini le sta dicendo con grande libertà, purtroppo. Quindi. No, e poi anche il paladino no, della gente che deve fermarsi quando davanti a un pulmino di scherzi a parte si è cagato addosso ed è sceso l'autogrill. Non ci direi proprio, sì. Diciamo quello, però. Sono anche allora, comunque, parliamo di cose serie, animalisti. Allora, sì, a me piace fare il suo cervello. Ti piace? Che cosa ti piace? Running, correre. Sì, correre, sì, no, ma se non parli chiaro non ti capiamo. Beh, allora. Poveretto, ha difficoltà, dai. Allora? Ha difficoltà, no? Ha difficoltà interloquire con l'uomo dal vitello d'oro, certo. Allora, ma guarda che queste cose qui le capisci solo te, l'uomo dal vitello d'oro, queste puttanate. Cioè, la gente anche lui, perché lui ha la dura cervice, capisce. Beh, lei purtroppo è una testa di cazzo, diciamo, quindi è difficile. Dico ecco che lei purtroppo, benissimo, l'uomo essendo dal vitello d'oro, una testa, testa di cazzo. Il vitello d'oro è anche la forma della merchia che vabbè, Eugenio, allora... la moglie a casa. Benissimo. Allora, voglio ringraziare, sono una bella querela questo. Avanti, continua a parlare. Sono dai, le querele addirittura sempre, per non dire nulla, dai, su. Cioè. Ma Eugenio, vai. Vediamo dimmi. Come ride poi. Allora, a me piace. Secondo me non chiama più quando gli arriva ti la querela. Ti piace correre la mattina e poi? Adesso perché lo devi querelare? Non ha detto secondo niente. Secondo me, perché offende. Secondo ma offende me, chi? Dai, su, non dire stronzate. Secondo me. È l'unico beh, che ha evidente. Usato una terminologia poco corretta. Riascolteremo, non si preoccupi. Riascolteremo in tribunale la conversazione. Non si preoccupi. Assolutamente, dai, te lo assicuro. Ma dai, su, è un gioco, ascolteremo dai. In tribunale la conversazione. Ma che vedrai, cosa? Ma vedrai che vuol che dire? Non chiama più. Vedrai ma che perché non dovrebbe chiama chiamare? Più. Lascialo chiamare. Beh, no. Perché quando gli arrivano a casa la notifica, ma vedrai ma che perché cosa? Più. Ma è ridicolo, vedrai, no? Ma è ridicolo, vedrai, ma non ha senso. Cioè... Poi a me le querele, dovete sapere, non mi costa nulla. Perché avendo un avvocato in famiglia, non mi costa nulla. Quindi. Sì, però scusate, ragazzi. Allora, ragazzi, la cosa è molto semplice. Siccome in questa trasmissione si può più o meno dire quello che uno vuole, più o meno, no? Ma si può dire quello che uno vuole quando uno esagera, sapete. Si può anche attaccare personalmente le persone. No, le si può... persone cioè ho capito, quello... ma si possono attaccare anche personalmente. Sì, dipende, se tu inizi a querelare tutto il mondo, ma non ha senso, no? Dipende qual è il limite. Io tre ne ho già fatte partire. Ma dove vedrai. Sta l'esagerazione? Dove sta l'esagerazione? Questo lo giudicherà una terza persona, cioè né io né lei. Vai, ma Eugenio, un dai, un che cosa volevi dire? Dai. Allora, correre la mattina stimola all'evacuazione, no? Tra l'altro è abrogata allora l'ingiuria, È anche abrogata l'ingiuria. Comunque. Va bene, vedremo. Dai, forza. Eugenio, dimmi. Io vado nelle aree sgambatura circostanti della mia zona, evacuo, sperando che durante il giorno qualche cane, che normalmente sono ghiotti di feci, mangi il mio prodotto e poi va a baciare il suo padrone. Cioè, adesso, questa è una perversione. Cioè, tu caghi dove? Innanzitutto caghi in giro. Caghi... Sì, nelle aree sgambatura cani. Tu vai a cagare lì, nelle aree di sgambatura dei cani. Benissimo, alla mattina presto. La mattina presto, vai là, e già questo non è, cioè non è proprio del tutto pacifico. Cioè tu esci da casa e vai a cagare nelle aree dove vanno, dove no, poi andranno i cani. Io vado a correre. Tu vai a correre e poi a un certo punto ti fermi e caghi, va bene, d'accordo, ti fermi e caghi. Scappa, cosa devo fare? Vabbè, insomma, ho capito, caghi là, no, ma caghi apposta lì, hai detto, vai a cagare apposta lì. Ma non puoi mica cagare ma in nella speranza strade, di che cosa? Non ho capito, nella speranza di che? Nella speranza che, perché il cane è un coprofago, no? E cosa fa? Quando il padrone lo molla nell'area sgambatura, va verso l'escremento, lo mangia, poi torna dal, dal padrone, e il padrone è felice di farsi leccare dal cane. E dunque tu speri che la tua merda venga vada addosso al padrone del cane. Perché? Perché odi i cani? Perché odi i cani? No, gli animalisti. Ma che c'entra? Magari quello che c'è il cane non è animalista. Cioè... Beh, ma tendenzialmente il cane è animalista. Ma non è vero, io però, pieno, conosco cosa. Un sacco di gente che c'ha il cane e non sono affatto animalisti, anzi odiano i vegani, odiano i vegetariani, odiano tutti questi estremisti qua. Sì, a parole, però il cane che cazzo magari dici? Ma non è detto, ma non è vero, vabbè, non capisci niente allora. A tavola, ma quello lì è animalismo. Vabbè, Eugenio, ciao. Allora ragazzi, io chiamerei il sindaco di questo paese nel Canavese che non vuole celebrare le nozze gay. Ma diavolo è che si chiama questo qua? Ragazzi, prima di chiamarlo, datemi un po' il nome, com'è che si chiama? Serafino Ferrino, l'obiettore di coscienza. Vediamo un po' se risponde, vai. Telefono? Sì. Sindaco? Sì. Buonasera Cruciani, come sta? Buonasera. Come andiamo? La nuova resistenza è iniziata, qualcuno scrive. Sì, certo. Il signor Adinolfi, per esempio, scrive che la nuova resistenza è iniziata. Lei condivide di essere diventato il paladino di questa roba? Sì, certo. Cioè, con questa sua decisione inizia una nuova resistenza? Ma io spero di sì. La mia voleva semplicemente essere non una disobbedienza civile e presa d'atto che gli amministratori possono diventare, anche debbano loro diventare degli obiettori di coscienza. Cioè, per cui lei pensa che adesso a macchia d'olio, spera che a macchia d'olio anche altri sindaci facciano come lei? Ma guardi, posso dirlo che un centinaio di sindaci si sono già mossi. Addirittura? Non in questo momento, ma in questo periodo. Cioè, questo siete già un centinaio? Non sono il primo a fare questo, attenzione. Lo so che non è il primo, però è il primo che ha detto io non voglio delegare nessuno. Perché certo, altri hanno detto. Ma questa è la formula più... così, molto semplice, per togliersi ogni responsabilità che si imposta con l'anima. Io dico no, non delego, perché nel momento in cui uno delega, condivide il pensiero, e io non lo condivido, quindi pertanto non delego. Non vuole mettere il suo timbro, cioè lei non ci vuole mettere la faccia praticamente. Perfetto, lei ha perfettamente ragione. Perfetto, no, niente, non c'è nulla di perfetto, è terribile, no perfetto, terribile. Lo so che è terribile, però è terribile, così. No perfetto, terribile. Scusi, no, io sono... Scusi un cazzo. Scusi, Serafino, scusi un attimo, nei matrimoni gay, a proposito, lei è molto cattolico, no? Quale Serafino? La vergogna. Molto, ma quanto cattolico è? Ma io faccio cattolico tanto, diciamo. Tanto, cosa intende tanto. Per lei? No, tanto vuol dire... Quanto vuol dire praticante, che... praticante? Super praticante. Super. Quante volte va a messa? Vado tutte le settimane, quasi tutti i giorni mi faccio un santuario vicino a casa, a piedi. Non ha imparato niente. Cioè, però. Allora, due persone che si vogliono bene si amano, no? Due gay si possono volere bene, bene, no? Possono stare insieme ma non creare famiglia. E questo chi l'ha deciso? Secondo le sue... Il mio pensiero, ma possono stare insieme, secondo me non è corretto che creino una famiglia. Due persone... La famiglia per me, io sono cresciuto a pane e azione cattolica. A pane e allora, delirio. Il catechismo mi ha spiegato che l'uomo e la donna fanno famiglia, e la famiglia è solo l'uomo e donna. Sì. E quindi io resto su questo avviso. Cioè lei dice che praticamente con la diffusione delle nozze gay l'umanità scomparirebbe. Non so come possono procreare, questo certamente. No, questo non possono, infatti. Fosse tutto così, non so come si potrebbe procreare il mondo. Cioè, la società è fatta sulla famiglia. La famiglia è composta da un uomo e da una donna. Ma non è che scompare la famiglia tra uomo e donna con la famiglia gay? Si aggiunge un'altra famiglia? O lei dice che mano a mano scomparirebbe, che diventiamo tutti froci? No, scusi se uso questa espressione. Non lo so, non lo credo, ma non è... Io non ho niente con gli omosessuali. Io mi chiedo solo se c'è la possibilità che qualcuno mi dica, non lo so, nelle istituzioni, mi dica: guarda, tu amministratore, sei come il medico. Il medico dice: io non accetto di fare l'aborto perché sono un obiettore di coscienza. Per me è sbagliato. Per me è sbagliato. C'è, una legge da applicare. C'è una legge da applicare, uno la applica. E allora, io mi sto chiedendo perché il medico può dichiararsi obiettore di coscienza. E infatti, per me è un errore. Io non lo posso fare. Posso io essere obiettore di coscienza per i miei motivi etici, cattolici, cristiani? Tutto lì. Per lei, scusi, sindaco, per lei è più importante quello che c'è scritto sulle sacre scritture o la legge dello Stato? Questo è fondamentale. Io sono un servitore dello Stato in qualità di amministratore, se è servitore, se è... ma il mio animo sono le sacre scritture, so che mi dice il Vangelo. Lei preferisce, è un contrasto, è per questo che io mi chiedo: posso io fare questo, dire di no? Ma questa è l'Italia, non è l'Iran, amico mio, è l'Italia, uno Stato laico. Italia, ripeta con me, no Iran, no Arabia Saudita, no, perché Vaticano, questa ripeta con me con il labiale, Italia. Cioè, se uno decide di seguire, se uno sindaco decide di seguire le leggi dello Stato, poi non è che a un certo punto si sveglia, no, su questa cosa qui invece preferisco seguire le sacre scritture, che poi bisogna vedere. Mi sembra un po' bizzarro, no? Ma vediamo. Ma non c'è da vedere. Posso? Dove abita lei, scusi? Lei abita Io abito a Fabria, in provincia di Torino. Bene, Fabria. Mi pare che la provincia di Torino sia in Italia, non nella provincia della Mecca. No, credevo di essere nella città del Vaticano, mamma mia. Ho commesso degli errori, va bene. Grazie, no, ma non va bene. Va male. Cruciani, se tu sei frocio per la provocazione, io sono frocio di te. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Meno male che hanno chiamato per dire che l'orgasmo vaginale non esiste, la più grossa panzana della storia dell'umanità. E Parenzo, è bene che non si faccia venire una sincope per una cosa del genere, è cultura generale e quindi è bene che se ne parli in radio, in TV, su tutti i giornali, perché voi uomini siete un po' ignorantelli e noi donne ci dovete fare godere, se no non ve la diamo più. Ma ragazzi, andiamo con il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. SMS, ti attaccano quelli della Zanzara, ti hanno attaccato quelli della Zanzara. Non era diretta ieri, me l'hanno rubata quella telefonata. Mi hanno preso, sì, me l'hanno estorta, io non sapevo non mi hanno neanche chiesto il permesso. Però vedo che continuano, hanno insultato ieri, continuano a farlo oggi. Cruciani, te rode. Dai, su, riprova, sarei più fortunato. Sali Padania. Si sono infuriati, estorcendomi. Non era un'intervista, era una telefonata, loro l'hanno mandato, so che l'hanno mandata in onda senza chiedermene il permesso, ma io purtroppo non ho soldi per avvocati e quindi non posso intervenire, non posso agire. So che ho sentito anche di essere stato insultato, ma quegli insulti attestano, nel momento in cui io non potevo nemmeno rispondere, sembrerebbero attestare una certa contrarietà degli interlocutori di ieri. Pellegrin, quello che potrebbe diventare il portavoce della mafia, perché ha detto che la mafia è meglio dello Stato italiano, non sa che cosa rispondere, blatera, come avete sentito, blatera. Delira, è sottoposto a farmaci evidentemente per ritrovare lucidità. sali Padania. Ascoltatori, Canton Ticino. Fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta come una madre. Bene hanno fatto in Canton Ticino, il nostro chiamiamolo governo, che costringe le persone ad emigrare per poter guadagnare una lira. Penso che ci spreme, sfonda il muro di onnipotenza. Senta, per l'immigrazione, basta, fanno entrare cani e porci i comunisti, perché sono sui comunisti o mi sbaglio? Questo è il Partito Comunista, ci ha ridotto così. Servi di Roma fuori. È stato Obama, la colpa è stata sua, che ha obbligato la Svizzera ad alzare il costo del franco. E qui i cinesi se la passano male, ragazzi. Servi di Roma fuori. Noi continuiamo ad accoglierli, molto presto ci sbattono fuori dalle case e ci mandano nelle tende come mettevano in Pelle Rossa. Quando questi saranno un bel numero, sfonderanno tutti. Senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guarda avanti, servi di Roma fuori. Giovanni, provincia di Foggia, vai. Sì, ciao. Dimmi, senti, dimmi. Ma stasera siete veramente cattivi, ma cattivi forti. L'ultima questa qua di Radio Padania è bellissima. Io farei un bel corso d'alfabetizzazione a tutti quanti questi qua, tutti. Dal primo Tra l'altro la Lega non sa che dire su questa cosa della Svizzera. La Lega ha scoperto qualcuno che li considera dei terroni praticamente, perché gli svizzeri... Eh sì, è così. Gli svizzeri considerano quelli di Como dei terroristi. Cioè, c'è sempre qualcuno più terrore di te. Bella lezione. E loro muti, zitti con la ruspetta nel garage. Hanno la ruspetta lì nel garage e non blatterano più, non abbaiano più. No, perché non possono abbaiano più. Capito? Sulla Svizzera non possono dire nulla. Pellegrini, come si chiama lì? Pellegrini, come si chiama? Perché non possono dare né ragione ragione agli svizzeri, perché altrimenti sarebbero contro quelli italiani che magari votano Lega, quelli che fanno avanti e indietro con la Svizzera, e non possono dare nemmeno ragione agli italiani, perché il loro motto è: ognuno è padrone di fare il cazzo che vuole a casa loro. Dunque, in teoria, dovrebbero essere d'accordo con i ticinesi che dovrebbero teoricamente, perché ognuno a casa sua fa il cazzo che vuole, no? Certo. Ma io infatti la penso così: ognuno a casa sua fa il cazzo che vuole. Cioè, i ticinesi, se vogliono mandare gli italiani, sono cazzi loro. Se vogliono mandare via gli italiani, cosa che non succederà, se vogliono mandare via gli italiani che vanno a lavorare lì, alla fine sono cazzi loro. Cioè, si ritroveranno con del personale da assumere, assumessero gli svizzeri, chi se ne frega, o gli svizzeri o quelli residenti in Svizzera. Poi in realtà è così. Vai, Giovanni, allora. Nico, sono visioni anche la tua, perdonami, però sai, delle visioni del mondo un po' antiquate, ecco, no? Perché nel mondo dove può circolare di tutto, beh, che non possano circolare gli uomini sembra veramente una cosa anacronistica. Ma dove dici? Non ho capito. In generale, se tu dici ognuno a casa sua, qual è casa tua? No, allora non ho detto ognuno a casa sua, ognuno ha il diritto di organizzare l'immigrazione come vuole. Se questi svizzeri vogliono dare la priorità a chi ha la residenza lì, invece a chi non c'è la residenza, benissimo, facciano pure, cioè, non c'è nessun problema, cioè, danneggiano le persone che non sono residenti svizzere e fanno avanti e indietro, questo non c'è dubbio, può darsi pure che danneggino a lungo andare la loro economia, chi se ne frega. Però se hanno deciso di fare così, di privilegiare chi ha per un posto di lavoro, chi ha la residenza lì in Svizzera, va benissimo per me, sì, sono fregando i leghisti di Como, però. Non lo so, i leghisti padani sono stati fottuti dagli svizzeri. Ben gli sta. Va bene, allora Giovanni? Ben gli sta. Io non capisco perché vi accavallate al telefono, non si capisce. Vabbè, Giovanni, ciao. Luca da Trento, ciao. Hai già detto la tua. Luca, vai. Luca, sì, ciao. Dimmi. Qua. Ciao. Allora, no, velocissimamente, la prima cosa era sul discorso dell'aggressione metropolitana. Che io sono invece dell'idea che qualcosa... Chi ha visto un po' tutta l'azione deve reagire, non si può sempre girare le spalle. Benissimo. Anche se uno magari rischia qualcosa, però vabbè. Non si può girare le spalle, bravo. Sì, vedi siete che tutti c'è... Rambo, tutti Rambo. No, ma c'è un'umanità, c'è l'umanità. Tutti Rambo, tutti c'è Rambo. C'è un'umanità che stenta a venire fuori, ma tutti alla fine Rambo, c'è una fiammella, Rambo. Esiste, c'è il paese tutti Rambo. È migliore. Vai, non tutti Rambo, essere, tutti... quando vedete tre furie che si abbattono e gente che si scazzotta, tutti Rambo, tutti a intervenire, salviamo i poveri innocenti. Nessuno sa quali sono gli innocenti e quali sono i colpevoli. però andiamo a salvare tutti. No, andiamo, ma non è a così. Salvare, no, dai. Salvare tutti. Non solo fare il Rambo, ci possono essere altre forme. Bravo, ma la gente avrà chiamato la polizia, avrà chiamato gli agenti, avrà chiamato la sicurezza, quello sicuro. Ma che cazzo ne sai? Ma che ne sai che non l'ha fatto? No. Vabbè, poi. Dopo l'altra cosa invece sul discorso dei matrimoni gay, che non possono assolutamente rifiutarsi di celebrarli, nel senso che... Vabbè, l'abbiamo già detto. Ciao Giuliano, Reggio Emilia, dai. Sì, sono in linea? Sì, dimmi, no. Beh, sì. Che cazzo sì, stai facendo? Io stasera ho capito che Parenzo soffre di problemi di capelli, non me ne voglia. Perché solo stasera ha fatto due riferimenti, tra l'altro anche non tanto pertinenti, a Donald Trump affermando che è il parrucchino. Non lo so, se è il parrucchino giallo, no, i capelli gialli, per modo di dire, dai, è un modo di dire, ma... detto, no, però ho dato informazioni, sì, sì. Quindi questo può desumere. Cruciani ha il complesso del sesso, perché parla sempre di sesso e quando se ne parla sono troppo... complessato, No, evidentemente c'è qualche... il pisello piccolo e sono complessato. Vabbè, no, questo però... Non mi dire più, c'ho il pisello piccolo e non mi dire più. Questi però sono problemi tuoi, voglio dire... Questo, penso che se si parla sempre delle stesse cose, poco si fa. L'altro aspetto di Parenzo, credo... È probabile che sia così, ho detto, non mi dirà più e c'ho il pisello piccolo e faccio poco sesso. Questi saranno poi i problemi dell'antropo. Scusa, ma sei tu che l'hai introdotto questo argomento, mica io? Sì, sei tu che l'hai introdotto? No, certo, ma io vorrei andare sul parrucchino, siccome mi intendo di queste cose che tratto capelli, dico, secondo me Parenzo sta perdendo i capelli e quindi fa molto... Ma perché può? Perché attaccare un politico... diciamo deridendolo dicendo che è il parrucchino, che poi non c'è, sembra dei capelli gialli, è l'ultima, diciamo, delle cose, è la meno evidente di tutto il resto, ecco, diciamo, è la meno evidente, quella dei capelli di Trump è la cosa meno evidente. Vabbè, ciao Riccardo Imperia, vai. Sono Riccardo. Sì, l'ho capito. Riccardo, sì. Riccardo lo, allora, lo sapevo. Pensionato, me lo dice adesso, ma non ce ne frega niente. 67 anni, bene. Sì. Dunque sono intervenuto. A meno che non vuoi parlare di qualcosa che riguarda la tua pensione. Per la faccenda della metropolitana di Roma, allora? No? Io ho fatto altrettanto tante volte, nel senso sono intervenuto molte volte, una decina di volte, in treno, per far cessare di fumare le persone che fumavano nelle zone proibite, no? Allora io mi rivolgevo a loro molto educatamente e le chiedevo di smettere. Normalmente, diciamo, smettevano, c'era anche chi non smetteva, allora io minacciavo di chiamare il controllore. Bravo. In genere è sempre funzionato. Ma questo è abbastanza normale. Se io vedo qualcuno che fuma in metropolitana, è evidente così che è successo, gli dico, scusami. Esatto, ho capito, ma la gente che cazzo ne sa di quello che è successo? Beh, ma avrà visto quello che fumava, però anche questo va capito, no, la dinamica. Avranno visto quello che stava fumando, o l'odore di fumo l'hanno sentito soltanto, bene, Riccardo, quelle persone, vai. Aggredite. Vai Riccardo, dimmi. Ragazzi, per le mie decine di volte che io sono intervenuto, gli astanti vedevano benissimo quello che succedeva. Allora, presente in un aeroporto in sala d'aspetto, c'era un tizio, un manager, con dietro un codazzo di 5-6 persone, va bene, tutti i suoi dipendenti, che fumava il sigaro e non si poteva fumare, una puzza tremenda, no? Io ho avuto il coraggio di rivolgermi a lui chiedendogli educatamente di smettere e lui ha detto di no. Tutti zitti gli astanti, eppure hanno seguito tutti la scena. Vabbè. Allora sono andato. Dunque, cosa vuoi dire? Non ho capito cosa vuoi dire. Cosa vuoi dire? Cosa voglio dire è semplice, è questo, che io allora facevo i miei interessi, perché non fatti cazzi tuoi, io facevo i miei interessi, perché allora? Io ho diritto di fumare, ho diritto di respirare l'aria pura e non fumando, non solo, facevo anche gli interessi degli astanti. Se gli astanti va bene, quindi se gli astanti non intervengono, certo hanno il diritto ad andarsene, però è un comportamento infame ed è un comportamento mafioso, perché sono loro che, vabbè, con loro, abbiamo, diciamo, capito perfettamente, mancanza di solidarietà, autorizzano e rinforzano l'atteggiamento dei violenti. Va quindi bene. La mafia viene formata. Sì, la mafia addirittura, la mafia. Per... Sì, estrapolando. Sì, diciamo comportamenti incivili, diciamo, sì. Ciao Riccardo, ciao. Ma favoriscono la marcia. Sì, favoriscono la marcia. Allora, la settimana scorsa abbiamo scoperto che Lino da Catanzaro, te lo ricordi Lino da Catanzaro? Fammi parlare, eccetera. Detto, beh, adesso sentire, di matti ne chiamano tanti, Lino da Catanzaro, quello in particolare. Lino Catanzaro, Lino da Catanzaro. Buonasera Parenzo, buonasera. Dimmi Lino, dimmi. Non mi tagliare, non mi censurare, perché venga a Roma, ci prenda a morti, applico l'articolo 21 della Costituzione. Aspetta. Cazzo, fammi parlare. Sì, ma se non... ti dobbiamo sentire però. scusami, Lino. Lino. Lino, ti dobbiamo sentire, Lino, dai. Lino il cretino. Dai, Lino, vabbè, Lino. Comunque io sarò cretino, tu sei il compare di Cruciani e sei il mandante, il killer, e lui fa il boss ed è il mafioso. Io voglio sapere come cazzo fate voi alla radio, come fate a trasmettere come state trasmettendo. Beh, visto che rompo il discorso come in Italia, rompe i coglioni alle televisioni e alle radio con le cazzate e voi fate quello che volete. E io voglio sapere da te, visto che parli e usi quel linguaggio, quando specialmente c'è stato Rocco Siffredi che ha raccontato quella porcheria in diretta di quell'anziana al funerale della madre. Allora? Io voglio sapere. Stupendo. Dalle 16 alle 19 c'è una tutela verso i bambini, verso la tutela dei bambini. Voglio capire. Cosa vuoi capire? Una bambina e un bambino, per caso di 10-11 anni, la madre va esce un attimo a fare la spesa, esce a prendere qualcosa al tabaccino, torna, quella torna, accende la radio e sente. Il bambino sente queste porcherie. Va bene per te? Perché se io avessi detto quello che tu hai detto alla radio in Calabria o alla televisione in Calabria, arrivano carabinieri, guardia di finanza, d'Oregon e tutti quanti dietro e ci arrestano. Ma allora, questo signore si chiama Lino Polimeni. Lino Polimeni e fu protagonista di un meraviglioso duello con Placido. Senti, Placido. Ha scoperto grandi talenti. Uno dei più grandi oggi, produttore, e anche quello che è stato il suo segretario, diciamo, nel contesto di quello che lei ha fatto. No, c'è questa possibilità anche di. Com'è, che segretario, autista. Okay. No, come si chiama? Lei vedi, sta andando fuori dal terreno. Vuole rimanere qui, vuole rimanere in questo terreno. Va bene. Rimaniamo qui, va bene, rimaniamo in questo contesto. No, vabbè, diciamo che. Quindi no, decide. Lei mi parla del mio autista. Parlavo che lei ha scoperto i talenti. Ma non si dice, no, scusi. Ah, no, non è così. Grazie, dai. Però è strano, io la conoscevo diversamente. Scusi, ma lei, scusa, lei offende la professionalità delle persone, è sgarbato con me e non funziona questa cosa, perché io non sono né il servo suo, sono un professionista che è qui a disposizione per raccontare il territorio calabrese. No, lei non sa fare il suo lavoro, no, glielo dice lei. Michele Placido, no, vada via dalla lei non si permette di cacciarmi, se lei sta, se lei sta recitando. No, non tocchi la telecamera. Non tocca, ma è maleducato, ma è impazzito, ma sei impazzito, sei, ma sei impazzito, sei problemi a casa, portiteli a casa, sei un animale, tu sei, ma è pazzo, ma che cazzo di ospite, ma che cazzo stai dicendo, ma cosa stai dicendo? Ma sei impazzito! Ma fai offendere la gente così! Ma che cosa dite? Questi signori vengono a prendere i soldi in Calabria e li paghiamo, profumiamo! Ma cosa dici? Ma cosa stai dicendo? Signore, attenzione! Ciao ragazzi, a domani! Vaffanculo, culo, culo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta! Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.